Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire, che è successo? Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti stai lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io mentre faccio l'amore con mia moglie ascolto la zanzara in cuffia wireless. Cruciani, mentre parli io mi innamoro e mi illumino di zanzara. Il mio fidanzato sinceramente mi dice di ascoltare la zanzara, ma io non vi voglio proprio per niente sentire, perché parlate solo di figa, di come si deve fare la pipì nel lavandino e di come si deve cagare. Sinceramente siete proprio due ignoranti, ve lo devo dire, basta. Ma questo è ingiusto però, eh? Questo non va bene. Ma questo non va bene, questo è ingiusto. È uno spaccato del paese terribile, incredibile. No, pazzesco. Questo è ingiusto, anche queste accuse di questa signorina sono ingiuste, sono ingiuste assolutamente. Per esempio, oggi non vogliamo iniziare con i soliti temi degli ultimi tempi, ma con una frase del Papa. Il Papa che apre ai gay, sì, e ai transessuali. Sì. Apre fino a un certo punto, naturalmente. Papa, dice che bisogna accogliere gay e trans. Beh. E che vuol dire, secondo voi, accogliere gay e trans? Nulla, non vuol dire niente. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nel indottrinamento della teoria del gender. Ma caro amico mio Francesco, la teoria del gender non esiste. Non esiste la teoria del gender, che non capisce nessuno. Cosa significa l'uomo, la donna, uno che vuole diventare uomo o donna e poi vuole tornare uomo? Non esiste la teoria del gender, non esiste qualcuno che vuole inculcare che non esiste più uomo e donna, non esiste nessuna teoria, ve la siete inventata voi per trovare sempre un nemico. Se la sono inventata i preti, se l'è inventata Don Fanzaga, se l'è inventata Dinolfi, se l'è inventata un sacco di gente vicina a te. Però dice, non dite giornalisti che santifico, non riesco a farlo il Papa, non dite che santifico i trans. Per favore, non dite il Papa santificherà i trans, per favore, perché io vedo i coppetti dei giornali, no. C'è qualche dubbio in quello che ho detto, voglio essere chiaro, è un problema di morale, è un problema. È un problema umano e si deve risolvere come si può. Sì, non è che c'è qualche dubbio, non abbiamo capito una mazza, perché no, è un colpo, lucido, un colpo al cerchio e uno alla botte, come Alzo dice, bisogna essere umani. Beh, certo, non è che vogliamo tagliare la testa. Cioè, ma ho capito, dice, ma è chiaro che come Papa non è che posso fare la nuova dottrina dei transessuali, perché però un conto è la discriminazione. Non si è capito niente, dai, questo, su, non si è capito. Il senso. Non io si ho capito perfettamente, ma un tu hai capito uomo, perché? Un uomo di fede, ma che vuol dire? Cioè, un uomo di fede sicuro, perché il Papa. Gesù non appunto dico Gesù ecco, no, non questo. Caccia gay e trans. No, ecco, no, questo è un pezzo importante invece. Ma dai, su. No, ma no. Ma che chi l'ha detto? No. Questo dai, cambia completamente. Su, ma che cambia? Beh, detto dal Papa, questo Gesù non detto così esplicitamente vuol dire che accoglie, apre una ma chiesa che vuol dire inclusiva, apre, ma... non è una chiesa esclusiva. Senti, potrebbe voler dire anche che la comunione la possono fare anche i gay, ad esempio. sai tu. Allora ragazzi, ultima puntata, anzi no, no, che ultima, magari non è l'ultima. Il venerdì scorso la saga della famiglia Fracca, la signora Paola, Fracca, ricordiamo Fracca. Fracca, sì, giusto, giusto. Extra comunitari sotto, due vecchi sopra incazzati che non vogliono gli extra comunitari, anziani, signori anziani che due, non vogliono gli extra comunitari. Due anziani, due persone. E due... sotto casa del fratello dei parenti che apposta l'hanno affittata agli extra comunitari per rompere i coglioni a quelli sopra. E loro incazzati dicono che fanno rumore i neri. Paola. Paola? Sì? Ciao, ciao, ho parlato con Maria Pia ieri poi, eh? E chi è? Sì, sono Cruciani, ciao. Ho parlato ieri con la signora Maria Pia, la sa, conosce Maria Pia? No, ho parlato con Maria Pia, ha detto che quello che avete detto voi è tutto falso. Ma ovvio! Sugli immigrati, tutto falso. Cioè, non è vero che fanno rumore, non è vero che... Ma va a cagare! Ma amica mia, così Maria ha detto. Ieri tutti, ma, ok? Questo ha detto Maria Pia ieri a noi al telefono. Non me ne frega un cazzo! Non è qui a sentirli, ok? Questo era l'incipit della c'è signora clima. Paola. In quella famiglia lì c'è un clima mica da ridere, altro che i migranti. C'è un clima brutto, brutto, brutto. Senti, famiglia. Senti. Poi ha detto che non è vero che ha mandato sta lettera, questa lettera dicendo vi mando gli immigrati dentro casa. No, la vuoi in copia? Leggi, leggimela un attimo, leggimela. La vuoi? Leggimela, leggimela. Porca puttana, ma smettetela, eh. No, ma sto chiedendo perché... No, ma c'è una tensione in quella famiglia, guarda, dai, secondo me... Dai, Cruciani! Paola, leggimi sta lettera, perché io devo arrivare a un punto della situazione, Paola. Leggimi sta lettera. Devo arrivare, te devi arrivare. No, ma... No, noi. Questo a quel proposito, ho già un paio di idee. Dov'è? La più attuabile è quella di piazzare la bellezza di 9 persone. 9 persone? 9 persone. Come risulta dall'allegato, e tanto per essere chiaro, sì, saranno profughi. Saranno profughi. Saranno profughi. Mamma mia. Ci ha letto la lettera in cui... I parenti vogliono piazzare i profughi sotto casa. La tensione aumenta. Mamma mia, ma che gente... Un'altra, posso andare avanti? Vai avanti, per carità. Un'altra è quella di vendere, sì, o affittare, sì, a cinesi, sì, o di altre nazionalità. Vabbè, i cinesi è brava gente, però. Che scusa, potrebbero, ma... inserire persone, sì, come quelle dell'articolo del giornale che ha letto. Cioè? I banditi? Che sono? Banditi, gente di... Cioè, okay, praticamente, di praticamente Paola, vi hanno detto vi mettiamo gentaglia a casa sotto casa, questo. Esatto. Mamma mia, comunque lei ha detto, Maria Pia ha detto che è tutto falso questa roba qua, tutto ma falso. Ma che vado a cagare. Che lotta, che ma lotta, dico, ma se tra trattano, parenti. Appunto, ma se si trattano così da parenti, cosa c'entrano gli immigrati? Si odiano tra di loro, non si possono vedere, si vogliono accoltellare per strada, stanno peggio dei Guelfi e Ghibellini, dei Montecchi e dei Capuletti, di Shakespeare, stanno rovinati. A proposito, dai, ragazzi, a proposito di liti per strada, non so se qualcuno di voi ha visto la signora Brigliadori, la nostra amica Eleonora Brigliadori, ex showgirl, oggi votata alla teoria più assurde, sì, sulla rinuncia alla chemioterapia, segue un signore ex nazista, dottor Hamer, che praticamente, sì, dice, ex medico anche, ex medico radiato, ex nazista anche, ex, sì, medico, voglio, cioè, come no, due ex, certo, cose, due ex, sì, eccetera, no, radiato, sì, dall'ordine dei medici, sì, che dice, sì, che non bisogna fare la chemioterapia, sì, praticamente, sì, sì, sì, ha litigato con la signora Toffa, con la signora Toffa. Chi partiamo dalla la fine, Toffa? Quella l'inviata delle Iene, che è andata là a rompere i coglioni anche bellissimo, lei con una la bionda, la Toffa, con una falsa paziente, ottima la Toffa, malata di cancro, che tu hai tentato di rimorchiare in un treno regionale, ma non ho tentato di rimorchiare, ci ho parlato, che cazzo dici, no, ma non è vero, ah, siamo in diretta ancora o no? Ma sì, è in diretta, siamo ma, in onda? Ma non è vero, Davide, 18:43, ah, qualche mese, anno fa, forse era un anno e mezzo fa, eravamo su un treno regionale, stavamo andando da Milano a Verona, se non, sì, ricordo, però ricordo, ricordo benissimo. Qua, sì. No, mi ricordo io quando si facevano le esterne della radio, eccetera. Adesso non mi ricordo. Pagatissime, poi esterne pagatissime, peraltro. No, vabbè, facciamo allora... queste. sale la signora Toffa sul treno, sì, e sì, tu sì. Mi ha, io ero lì sul, sì, allora, no, ma racconti, io da tranquillo, mi sai hai che mi totalmente questo. Abbandonato sul treno come un cretino, e hai cambiato scompartimento e ti sei messo a baccagliare questa poveretta, questa simpaticissima iena, carina, sì, anche per carità, ma non è vero, sono andato a discutere con lei, a parlare, perché a discutere. Vabbè, di che cosa? Di finanziaria? No, non credo. Dei servizi di che stavano, no, no, non credo. Di migranti, c'entra? Meno che meno. Ma no, è di felicemente referendum, no, è felicemente fidanzata, referendum. È felicemente fidanzata, ecco, signora. Comunichiamo al signor, al fidanzato, ma non è vero, che all'epoca hai passato un'ora e mezza nella tratta, vabbè, ma allora Milano Verona a provare a rimorchiarti l'ottima Toffa, lasciando il sottoscritto come un cretino, questo si può anche confermare, con una persona vicino. Tra l'altro eravamo in seconda classe, c'era la gente che puzzava, ma hai fatto prendere il biglietto di seconda. C'ero Lavi con una signora vicino che ma mi rompeva i coglioni, mi ricordo, come, ma allora Cruciani, guarda, Cruciani sarà andato con la Toffa lì come al solito, ma ma non... Cruciani, allora è vero che un'ora e mezza di viaggio, vabbè, da solo, perché lui doveva rimorchiarsi la Toffa, di cui adesso sta parlando per questo servizio bello, anche perché Toffa Brigliadori, sentiamo. Perché? Si rende conto che è pericoloso dire a una persona che ha un tumore di smettere di fare la chemio? Chiudete le orecchie. Sono demoni pagati per rompere le scatole a chi fa le cose nel bene. Non conoscono lo spirito. Si rende conto che il guru, aprite, che lei nomina, aprite la I, che male. Una porta a destra. Signor Brigliadori, si deve far aiutare. Di andarsene. Lei aveva dei tumori, signora Brigliadori? Io posso. E lei può cosa? Io posso fare luce intorno a me. Occhio che questa memena, eh. Ma lei si rende conto di quante persone sono morte o no? Che smettono di farle cure. 2000 persone muoiono di chemioterapia in Italia ogni giorno. 2000 persone. Ma cosa mia dice? Mia madre è morta di chemioterapia. Mia nonna è morta di chemioterapia. Qua, quella che si nasconde con gli occhiali, che mi ha detto che aveva un tumore, una di questi demoni, no, ti piglio per la coda, fatti vedere con la faccia chi sei, che è venuta con un microfono nascosto nella borsa, sta stronza, ti aggredisco, sì, tu sei falsa, tirati fuori questi occhiali, pezzo di merda vivente, pezzo di merda vivente, schiava dei demoni, falsa, ipocrita, bugiarda, senza Dio, senza Dio. Beh, siamo veramente al cosa top. È successo, al top tempo? Assoluto, al top assoluto, senza Dio, che poi senza Dio non c'è niente di male in teoria, no? Cioè, demoni, perché il perché sempre il demonio di mezzo? Questa è una che stava con la telecamera nascosta, perché in questo modo ti fa dire le più grandi cazzate della tua, ma della tua storia. Ma Brigliadori è la stessa che faceva, si faceva, sì, dei drink di, no, urina. Faceva tante, sì, drink, sì, faceva tante, anche dei drink, drink di urina, nonché film nel passato, va, vabbè, vai. quello però è la parte migliore, sì, ma assolutamente dire, drink di urina, drink faceva di urina, no? Sì, drink, okay, drink. Ecco, no, è solo per ricordare, non voglio dire bere, dico drink, drink, drink, drink, drink, drunk, drink. In questo caso le provvidenze di La Zanzara. Allora ragazzi, so che sto per dire una cosa molto molto impopolare, soprattutto le donne si incazzeranno, ma io non riesco davvero a capire il motivo per cui, per chi guarda il Grande Fratello ovviamente, no, per chi è appassionato della materia, no, non riesco a capire il motivo, Grande Fratello in questo caso, dei VIP o presunti tali, non riesco a capire il motivo per cui i due signori che non sono dei lord, che non sono cresciuti nell'Accademia della Crusca, non hanno fatto le università, ma sono un ex calciatore, è un ex pugile, praticamente un pugile che vuole fare dello showbiz come Clemente Russo e Bettarini, i quali alle 3 di notte in una camera super controllata dalle telecamere parlano di figa, perché di quello si sta parlando, di figa. Sono molto volgari, parlano in termini volgari, ma certo, anche in termini anche, non maschilisti, qua, ma proprio schifosi, ma perché tu non ho capito, quando tu sei con un tuo amico, sì. No, un tuo amico, sì. Magari di notte, e parlate di donne, ti sarà sì. capitato nella vita, adesso un po' meno, ti sarà capitato, sì. No, di cosa no, parlate? No, primo di figa, no, parlate. Io mi sono fatto quella, quell'altra. Parliamo anche di Zagrebelsky ogni tanto. D'accordo, oltre che parlare di Zagrebelsky. Parlo di Zagrebelsky. D'accordo, benissimo. Professor Zagrebelsky. D'accordo, però a un certo punto... a te non piace neanche pronunciare il nome. Tu pensi che pronunciare il nome che sia uno scaggiafiga, dici. Ma invece non è così. Abbastanza, insomma. No, tutt'altro. No. Professor Zagrebelsky. Però una volta finito di parlare di Zagrebelsky, parli anche di figa, no? Parliamo di Pasquino, un altro politologo. Sì, ma avrai parlato anche di figa, no? No, no. Ah, non parli mai di figa, non hai mai parlato di figa. Con professor Pasquino. No, con un tuo amico, con un tuo amico. Ah, beh sì, certo, è capitato in maniera anche cruda qualche ma volta, senza no? le telecamere. Ma quello se... è Grande Fratello, no, però. Ma chi è il Grande Fratello? Se vado con una telecamera, se invito dai, qui su, in radio ragazzi. Il nostro comune amico Hannuna, ad esempio, col quale posso anche aver affrontato questi c'entra? Argomenti. Ma il ma Grande so Fratello, che ci sono le telecamere, so che ci sono i microfoni accesi, con Hannuna non mi metto a parlare. È intervenuto certo. il ministro della giustizia. Ottimo, per parlare di misoginia, omofobia. Poi è diventato omofobo la parola Friariello è omofobo. Dire puttano zoccola è misoginia. Se tu dici a una che scusa, ma se tu dici poi l'avventura può querelare, perché già fa bene se si sente diffamata. Deve farlo. No, deve, lascialo decidere a lei. Ma no, no, perché è stata anche, come dire, offesa. Ma quello è un altro discorso. Violento dall'ex marito. Ma questi sono diventati due criminali adesso. Sono diventati due criminali questi qua. Ma hai offeso la tua ex moglie in modo violento, gratuito. Ma il Grande Fratello. Schifo. È il Grande Fratello. E che vuol dire? Non sono due lord. Ma che c'entra? Ma quindi ragazzi, giustifica tutto? Ma che giustifica? Sapevano di essere ripresi, perché la regola d'ingaggio del GF è che tu 24 hours ragazzi. Quanto è bello fare un po' come Marchione, ci parla l'americano, drink 24 hours, questi sono con camera 24 hours dai, ripresi su. E quindi sanno che sono in onda sempre, e quindi hanno detto una volgarità. Parlano di figa, appunto. Parlano di no, in maniera cruda, parlato, in maniera in modo, cruda. Io mi scopo quella, boss... io mi scopo quell'altra. Io ho tradito così. Volgare, io brutto, volgare, perché volgare, volgare. Brutto, volgare, misogino, cattivo, offensivo nei confronti della ottima avventura. Va bene, avventura. Maurizio Varese, insomma, vai. Insomma, uno schifo. Maurizio Varese. Dimmi, Barisoni un cazzo, è Cruciani, sì, dai. Anche, va bene, ottimo. Cruciani, se ho sbagliato. Sì. Ma, ascolti, ma perché dice che il dottor Hammer è un ex nazista? Beh, un seguace del nazismo, il cazzo diciamo, che vuoi, uguale, dai, non su, è nazista, non nel senso, non nel senso che ha militato nel nazismo, è no. uno che aveva delle idee vicine, cioè un ammiratore di quelle robe lui. Lì. Lo ha detto lui, amico mio. Andate mio, a vedere chi io. È su internet, sulla ma, rete. Ma se non sei una mazza, scusa, perché chiami dicendo che non è vera questa cosa qua? È uno che ha espresso qualche volta dell'ammirazione nei confronti del signor Hitler. Punto. Ame, dottor Hammer. Capito o no? Che fai? Che mica è l'enciclopedia questa qua, eh? Non è che hai chiamato per avere certezza di una cosa. Io non no, pazzi, no, no, siete voi che avete delle certezze per cui io non ho nessuna certezza. Io. Ho la certezza che questo dottor Hammer è un cretino, un imbecille. Questa è l'unica certezza che ho nella vita. Che questo dottor Hammer è un emerito cretino. Ma non perché è stato cacciato. Non perché è stato cacciato all'ordine dei medici. È un cretino, punto. Non c'è poco da fare. Carlo da Roma. Pronto. Dimmi Carlo, dimmi. Niente, stavo sentendo come tutte le sere la zanzara. Sì. E allora Carlo, volevo sapere sempre quel discorso, dico quel quale Maria discorso, Pia, sempre Maria quale? Pia che gli ha messo gli extracomunitari. Sì, sotto sì. Ma che se ci pensiamo gli ebrei ne erano uguali? Ma che c'entra, sentito, scusa? Che c'entrano sentito, gli ebrei, scusa? Hai sentito che c'entrano gli ebrei? Che testa di cazzo. No, no, no, no, fermo lì. Allora, mettiamo in chiaro una cosa, Carlo. Qual è il punto? Di cosa vuoi parlare? Testa di cazzo. Di cosa vuoi parlare? Dimmi. Sì, sì. Il razzista testa di cazzo. Da Roma a Verona ti ha fatto prendere la seconda classe che puzzavano. Perché? La seconda classe ti fa schifo. Il razzista. Carlo, stiamo tranquilli. Testa di cazzo. Allora, Carlo. Carlo, ho scandito bene la cosa. Virgola, Carlo, sì. Non so il cognome, non me l'hai detto. Carlo, sì. Virgola, sì. Il razzista, sì. Testa di cazzo. Allora, però, Carlo, però anche tu non ci vai leggero, per cui prenditi questo e porta a casa. Razzista, però, Carlo, sì, ma io lo prendo prendo sempre. Ma cosa? Quello che prende lei lo sappiamo tutti, però non lo vogliamo dire, diciamo. Quello non si preoccupi, che lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, non occorre far pubblicità alla radio. Carlo, perché hai chiamato? Questo voglio capire, perché hai chiamato? Perché non hai da fare. Perché mi piace sentire, mi piace chiamare, mi piace parlare con Parenzo. Perché? Ma non stai sfottendo lì? Gratuitamente la no, ma che cos'è che ti ha stimolato? Ci deve essere qualcosa, che ne so, la storia degli extracomunitari sotto casa. Gli extracomunitari, che è quello che ci ha messo sotto gli extracomunitari. Ma tu li vuoi portare? Ma tu li manderesti a rogo gli extracomunitari? Io sì, tutti, devono stare a casa loro. Ma che vuol dire a rogo? Tu li ammazzeresti tutti uno per uno? No, ammazzarli non essere così violento. Ammazzare nessuno. E che cosa? Ognuno deve stare a casa sua, andate in Israele. Che cazzo li tornate a fare? Il cosiddetto pensiero complesso si chiama. Questo si chiama l'Italia, il paese mio. Scusa, questo si chiama il pensiero complesso. Carlo, devi stare tranquillo. Carlo, allora io non ho capito bene. Perché tu non sopporti gli extracomunitari? Spiegami, perché non li sopporti? Perché devono stare a casa loro. E dunque, che cosa faresti con gli extracomunitari? Concretamente, cosa faresti con questi extracomunitari? Che non l'ho capito. Niente, farei come l'Area 51 in America. Tu sai che c'è sta dentro l'area 51, fare tutta una zona solo per loro. Posso andare qui, aiutiamoli là. E poi? Ma posso, mettiamo due. Ma tu sei nazista, ti piace Hitler? Sì, questo è vero, perché... Ma questo è vero, ma non è normale, questo è vero! Se tu italiani li mandi a referendum, sta pur tranquillo che il 100% rivoterebbe Mussolini. Ma che Mussolini? Hitler, per rimettere un po' le cose a posto. Fermo, ciao Carlo, per rimettere le cose a posto, il pensiero complesso. Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri, o quanto rubano i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a Mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Varese, insomma, uno schifo. Maurizio Varese, dimmi, Varisoni un cazzo, è cruciale. Sì, anche, dai. Va bene, ottimo. Grazie Roberto D'Agostino, no, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Allora ragazzi, andiamo a Bologna da Mauro. Vai Bologna Mauro, vai. Ah, ma non dici niente. Che succede? Non dici nulla sul fatto del giorno. Mi dispiace che tu non dica nulla sul fatto del giorno. Qual è il che fatto si è del chiusa, giorno? Si è chiusa. Ma cosa? Si è chiusa. Ma che cosa? Definitivamente una macabra farsa. Ma che cosa? Il referendum di tal Orban. Orban è uguale all'Australia. Perché gli ungheresi hanno detto no al referendum di Orban. Attenzione, non è vero. Hanno detto no non al è referendum vero. Di Orban. Non c'è stato il quorum. Quelli che sono andati hanno votato. E lui l'ha presa nel posto dove non batte il sole. Ora, questo signor tal Orban, mi dicono si eletto chiami, democraticamente Orban, in Ungheria. Si dovrebbe dimettere. Ma quale dimissione? Illico atque immediato, come dicono i latini. Ma quando? Illico atque immediato Orban, dimettersi. Orban... Perché gli ungheresi gli hanno detto... Così gli hanno detto, non se vero, vuoi parlare non un linguaggio non è vero, non è che vero. A te piace. Tu sai come che no? Chi è andato a votare, chi ma è andato c'è? A votare, hanno ha votato massicciamente, sì, massicciamente a favore di Orban. Come spesso accade nei referendum dove c'è il quorum e dove qui. Quindi si dovrebbe dimettere questo signor Orban. Non molliamo, Orban. Non si molla qui, non si molla. A casa Orban, caro. Non si molla, come in Australia, Europa come l'Australia, l'Europa come l'Australia, vedi non si molla. Vedi che esiste una Ungheria non si che molla. È la maggioranza, ma che esiste, peraltro. Gente che non è andata a votare, purtroppo. Civile, che ha rifiutato un referendum razzista. vista macabro, macabro, perché è un referendum fatto sui morti, capito? Sì. Daniele perché... Livorno, vai, Daniele, forza, Daniele. No, chi era? Mauro Bologna prima, prima Mauro, vai. Mauro, aspetta, Daniele, Mauro, dimmi, dai. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo, siete due grandi, un grande abbraccione. Vabbè, non ce ne frega nulla, dai, di queste cose qua, dai. Un valore aggiunto, oltre allo, allo squatti potti, che è veramente vero, degli esperti, una cosa che non ho mai sentito e che vorrei che sentisse anche dei medici, se uno si mette sulla tazza oltre l'alzata, che potete fare con lo squatti potti, con un dito, una leggera pressione in mezzo allo scroto, quindi in mezzo ai due testicoli, e favorisce, primo, vabbè, la prima espulsione, ma quella non ce n'è bisogno, ma quell'altra, che di solito uno fa la prima, poi ci rimane sempre un rimasuglio, e uno spinge, spinge, spinge, ma non esce. Non ho capito, scusa, tu stai chiamando alle 19:21, per carità. Una pressione sullo scroto e ci libera tutto, è una cosa eccezionale. Ma io capisco, capisco che posso avere, come dire, portato molte persone a domandarsi, ma io la sto facendo correttamente, la sto facendo bene, sto utilizzando tutte le tecniche possibili immaginabili per non avere problemi in caso di evacuazione. Capisco questo ed è un elemento fondamentale perché nessuno ci pensa e ci pensiamo noi. Non è che se ne parla quotidianamente nelle trasmissioni, per esempio io la mattina quando accendo la 7 omnibus non parlano di squatti potti, cioè non parlo di come si caga, e no, e come mi chiedo anche altre cose, mi chiedo anche altre perché cose, perché qui chiamano solo per no, questo, non è vero, non è vero. Allora io dico Mauro, i più esperti, sì. Mauro è normale, assolutamente i più esperti, però Mauro scusami un attimo, cioè secondo te Zagrebeschi caga bene, per esempio, interessante, secondo me no, secondo me guardandolo anche in faccia, anche il colore, no, il colore, ma così secondo me anche se sapesse sì, bene, ma Giuseppe, dimmi, Giuseppe, dimmi. Credimi, prova, prova, cioè Renzi per esempio conto. Renzi per esempio sì, secondo me caga bene perché mi sembra piuttosto vivo in faccia, uno come Zagrebeschi come me un po' pallidino, qualche ma consiglio che, su come evacuare, rispetto, uno dei più grandi professori, ma che c'entra rispetto perché italiani, non caga Zagrebeschi, non va al cesso Zagrebeschi, ma andrà, parla di queste ma cose, andrà al cesso Zagrebeschi, no, cioè no, comunque Mauro dimmi. Cioè la, la pressione col dito sotto lo scroto, amico mio, la non lo so. Pressione col chi te l'ha detta dito, questa cosa? Chi te l'ha suggerita? Non me l'ha detta nessuno, mi veniva io un tempo, tenevo quando mi scappava Sì, vabbè, dai, dai. Ma provando, andando in bagno, facendo la pipì, toccandomi, che è capitato per caso, casualmente, da cioè viene tempo, meglio, lì, viene meglio. Io, no, non è che viene meglio, viene la seconda parte, quella che non esce. Sì, non certo. Non sempre si completa, viene in automatico, no? Viene in automatico, dici. Un rimasuglio, un pezzettino. Sì, allora abbiamo capito, spinge, sì, abbiamo spinge, capito, spinge, sì. Non esce, fa quella pressione lì, è eccezionale, c'ha lo svuotamento completo. Va bene, provate, Mauro. Telespettatori, provate. No, telespettatori no, però. Mandate i vostri pareri. Un abbraccione, siete grandissimi. Ciao, ciao Mauro, ciao. Che pareri, ciao, Mauro, ciao. Che dici? Daniele da Livorno, vai Daniele, dimmi. Ciao ragazzi, ho chiamato per contrastare un po' quello che stai dicendo sul dottor Hammer. Oddio, dottor Hammer, perché dobbiamo parlare del dottor Hammer? Non è che quello potete ridicolizzare in questa maniera. No, ah no, è un grande. È un grande Hammer, un signor grande idiota, Hammer. Un imbecille, un cretino. Se vuoi due minuti ti spiego perché. No, no, ma spiegami. Allora, lui dopo che fu ucciso il suo figlio nell'isola di Cavaillot, dalla Savoia, e allora? Ha incominciato a studiare su se stesso, specialmente perché partono questi tumori. E allora? È arrivato alla conclusione. E qual è la conclusione? La conclusione è che uno shock che ti prende in isolamento è un colpo biologico al cervello e la natura ha progettato in migliaia di anni un sistema per smaltire questo shock che si forma nel cervello tramite il corpo. Quindi a seconda del tipo di shock che uno subisce, viene colpito un organo del corpo che è lo scarico di questo shock biologico che viene subito. E dunque lui ha ideato un sistema diagnostico che permette di capire in quale parte del corpo verrai colpito dopo che hai subito lo shock. Sì, ma per queste sue idee, cioè non fare la chemioterapia, le congiure delle... Ma queste sono conseguenze. Sì, ma ho capito, ma questo qua è stato radiato dall'ordine dei medici. Non radiato, è più medico, radiato. capito? Ma l'idea o no? Che è stato radiato perché era troppo scomodo al business farmaceutico e dell'ordine mondiale dei medici. L'ordine mondiale, ma non c'è un ordine mondiale, c'è un'organizzazione mondiale della sanità che si occupa di vagliare i protocolli sulla base della scienza, non delle convenienze. Dai, questo AME non c'è troppo la storia. Di Tubinga in Germania ha superato questo protocollo, hanno detto che le sue scoperte sono buone. Buone, questo sì. Hammer è un cialtrone, come il sale dai. Della Marchi, come il sale di Vanna Marchi. Non è un cialtrone. Nel 2006 in Italia è stata presentata 2006, la proposta di una sperimentazione. È come di bella questi qua, dai, su. No, qui no. Perché qui non, dai, vabbè, non possiamo qui, non, qui, qui, non è, qui non è la trasmissione scientifica su Hammer. Fiorenzo, Florenzo, non so, dalla provincia di Latina, vai. Forlenzo. Sì, che cazzo di nome è Forlenzo? Già ho chiamato una volta, mi dicesti sempre questa storia del nome. Guarda, io sto telefonando perché voglio dire, ho sentito questa storia qui di, insomma, della chemioterapia che hanno citato. Tu ecco, meglio, va. Esattamente intelligente. Valeria Modena, vai, Valeria. Io sono Valeri, allora io oltre che chiamo per il Grande Fratello perché l'ho sempre seguito, Grande Fratello Vitto. Chi? Hai sempre seguito? Non devono diffondere. Aspetta un attimo, aspetta. Prego. Lasciare un messaggio dopo il beep. Valeria, che dicevi? Dicevo, oltre che io avevo chiamato per il Grande Fratello VIP, sì, ma questi che chiamano per la chemioterapia non devono diffondere questo messaggio che la chemioterapia non cura. La chemioterapia cura. Comunque, chiamo per il Grande Fratello. Mi sento molto offesa per Clemente Russo e Bettarini. Perché? Che ha fatto? Non ho capito. Loro devono essere se stessi, è vero. Però lì recitano anche una parte. Loro questo non lo so se recitano, io dopo è scontato che non recitano. Se poi recitano è un altro discorso. Hanno offeso Simona Ventura, la Mosetti e il povero Bosco. Hilary Blasi questa sera, se mi sente, deve punirli, buttarli fuori e mettere me dentro. Giovane, carina, tutto pepe, mettere me che sono sincera. Che c'entri tu? E non starlo. C'entri e anche la Pamela Prati deve uscire. È andata lì per prendere solo un cachet, sto dentro la casa. Ma chi sei tu? Chi sei? Io sono Valeri. Ma chi sei? Perché dovrebbero mettere te dentro il Grande Fratello VIP? Io ho un canale di YouTube anche. Hai un canale di YouTube? Ma come ti chiami tu? Nome e cognome? Lady Passion Fashion. Ho un canale. Lady Passion Fashion. Ma che cazzo, mica sei VIP o presunta tale? Ma chi cazzo ti conosce? Comunque, io parlo per loro che Hilary Blasi deve punirti. Ma scusa, aspetta, tu sei Lady Fashion Fashion? Sì, ma parliamo non di me, parliamo no, di loro. No, ma come hai chiamato dicendo che devono mettere te dentro Grande Fratello adesso non parliamo di te? Ma perché sono sincera, onesta, non sono finta come loro. Ma chi loro, te conosce? Quelli almeno sono un minimo conosciuti. Lady Fashion. Va bene, allora andrò al Grande Hermano, ma comunque Hilary deve punirti. Andrai al Grande Hermano, voglio fare il provino per andare al Grande Hermano. La vedo, come vedo le foto della signora, beh insomma dalle foto sembra una signora. Non sono una brutta ragazza, ma comunque non parliamo lei di me. Ma scusa, ma come non parliamo di te? Che vuol dire non parliamo di me? Io voglio parlare del Grande Fratello VIP. No, ma aspetta un attimo, per non fare il... ma sembri un robot, Lady Fashion... Passion. Andate su Instagram, mi vedete. Ma chi se ne frega? Ma che senso ha? Ma di cosa si occupa lei, signora? Io mi occupo di finanza e amministrazione, ma mi piace moltissimo cucinare. Di finanza e amministrazione? Certo, sì. Per una grande azienda mi occupo di finanza e amministrazione. E perché dovrebbero invitare la Grande Fratello? Mi piace moltissimo cucinare, pubblico tante ricette, ricettine sane, leggere, che non fanno male. Chi se ne frega, vero? Lady Passion Fashion, eccola qua, Lady Passion Fashion. Su Instagram mi vedete. Vabbè, ma tu ti stai facendo pubblicità così? Diciamo una vita normale anche lei, sì. Certo che è una vita normale, ho il mio lavoro, mi piace condividere le mie passioni con chi... Certo, mi piace condividere le mie passioni con suo fidanzato sarà contento che lei chiama in diretta alla Zanzara. Ma perché non dovrebbe essere? Ma mio fidanzato neanche lo sa, ma che se ne frega di lui. Parliamo di me, non di lui, va. Ma io non ho capito, che nella vita che fai tu? Niente. Mi occupo di finanza e amministrazione. No, non faccio. Ma sei quella con i capelli neri un po' a caschetto? Ma che? Ma no, Lady Passion Fashion su Instagram. Sono bionda, non sono castana, sono bionda. Bionda, sì, mi occupo di finanza e amministrazione. Di finanza e amministrazione, qui sei vestita di cosa? Se c'hai i baffi tipo cane, tipo gatto, ma che non ti occupi di finanza? Ma che c'entra quello? Tutti avevamo un lavoro, però nella vita privata per carità, che c'entra? E ti occupi di finanza e amministrazione? Certo. Lei di Passion Fashion, fammi vedere un po'. Qua. Esatto, di finanza e amministrazione. Ma quanto di seno quanto porti? Ma che importa? Una ma quarta quanto scarsa. Porta? Quanto? Una quarta scarsa. Una quarta scarsa. Vabbè. Una quarta scarsa. Fermali, fermali, aspetta, aspetta. Zanzarosi, andate a fare in culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... Io sono Robur K18. Anch'io sono K18. E io pure. Io anche. Per il riscaldamento di casa e l'acqua calda, punta in alto. K18 è il sistema Robur in pompa di calore a gas. Ha un'intelligenza che usa al meglio l'aria, l'energia rinnovabile più disponibile. Le K18 ora sono 10, 10 modelli per ogni esigenza, dove come vuoi, anche da interno. Accendi il risparmio. Accedi agli incentivi, con K18 dimezzi le spese. Nuove K18, 10 e Robur. Robur, coscienza ecologica. Ehi, socio Conad, cosa fa lei per le famiglie, per farle risparmiare davvero? I bassi e fissi. Cioè? Cioè pasta, farina, latte, uova e tantissimi prodotti indispensabili sono a prezzi bassi e fissi fino al 31 dicembre. Lei è il mio punto fisso. Ehi, io sono Conad. Conad, persone oltre le cose. È in pieno centro o fuori dal centro? È nuova, da rimodernare. La senti giusta da subito o dopo averne viste 100? È piccola, ma ti farà sentire grande. Se trovi la casa giusta, oggi c'è un mutuo per non fartela scappare. BNL ti dà una risposta certa per l'acquisto della tua casa in solo 5 giorni. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Messaggio pubblicitario, finanziamento soggetto ad approvazione, fogli informativi su bnl.it. Il mondo sta cambiando e Firenze deve conquistarsi il suo posto. Il più atteso evento televisivo della stagione. La percezione è potere. E noi dobbiamo apparire potenti, ora più che mai. Una grande produzione Rai. È la discendenza a fare grandi le famiglie, Cosimo. Non gli uomini. Dustin Hoffman, Richard Madden e un cast internazionale. Tutto quello che io ho fatto, l'ho fatto per Firenze. I Medici. In prima visione mondiale dal 17 ottobre. Rai 1. La Zanzara. Luciani, grazie a te, vado a cagare col goniometro. Luciani, ti devo ringraziare. Da quando mi hai fatto scoprire lo sgabello non sono più stitico. Grazie. Luciani, lavoro a Walt Disney World, Orlando, Florida. Sono al bagno dei cast member. E piscio nel lavandino. Siamo al top. Siamo al top con Mickey Mouse. Siamo al top. Allora ragazzi, cosa succede nei 5 Stelle? Mentre il sindaco di Parma Pizzarotti lascia il movimento, io dico solo una cosa, non è che è lì per caso, eh? Fu eletto a Parma solo perché Grillo ci mette la faccia. Io lo dico sempre, questi qua pensano di avere una popolarità, un qualcosa al di là di Grillo. Sono stati eletti in franchising, in sostanza. Cioè il loro marchio vale, loro valgono perché c'è Grillo, altrimenti avrebbero preso meno voti di Parenzo, meno voti di Cruciani. Questa è la mia opinione. Beh, questo può anche essere, dopodiché il signor Pizzarotti che fa questo annuncio drammatico di lasciare i 5 Stelle. Drammatico, drammatico solo in Italia. Parole fondamentali, no? Esco da uomo libero. Perché prima che era, non ho capito. Perché prima che era un prigioniero, che cos'era? Sta un prigioniero. Accadendo qualcosa dentro quel mondo, sta accadendo. Ma che vuol dire? Mentre sta succede questo, aspetta, qualcosa. Mentre succede questo, a Palermo le Iene scoprono che qualche anno fa, durante la raccolta di firme per un'elezione comunale, anche i 5 Stelle non sono poi, sempre da dimostrare naturalmente, non sono poi così puri. Hanno falsificato, avrebbero, diciamo anche avrebbero falsificato anche loro delle firme. Senti questo signore che dice, è un militante 5 Stelle, Pintagoro, il signor Pintagoro. Quando si sono raccolte le firme, io ho trovato due persone che stavano ricopiando 2000 firme. E in quella sede, che era la nostra, dissi subito, e fu il solo: ragazzi, ma siete pazzi? Noi stiamo commettendo tutti quanti un reato penale. Questo pare che abbia visto alcuni attivisti, poi diventati una parlamentare, una lavora alla Regione Sicilia nel Movimento 5 Stelle, degli attivisti proprio copiare e falsificare materialmente delle firme, eh. Attenzione, attenzione. Intanto c'è chi in casa, ti giuro Parenzo è tutto vero, in casa porta delle galline, Beh, vabbè, questo... che sanno contare e sanno anche i principi della geometria euclidea. Le galline. Cioè c'è una una gallina che si chiama Nina, credo, Nina, che ovviamente la trasmissione quale può essere? Quella della Celentano, Chiedimi se sono felice, naturalmente, la quale esalta il fatto che una signora, senza considerarla per questo una squilibrata, una signora tale Amodio, se non sbaglio, sì, abbia in casa una gallina. Beh, bellissimo. Una gallina come bella. Animale di compagnia. Beh, non una gallina da strozzare poi e farci il brodo. Da strozzare? Guarda che anche non è, io, il mio amico Luca Sommi, che tu conosci, che è stato autore che di c'ha Nonda, una gallina come animale di compagnia, non ho capito. Certo, ha una gallina in campagna a Parma, campagna, che si chiama, ma che Nina. C'entra? Ma in campagna. La fotografa, si chiama campagna, Nina. Non la a gallina casa. La tiene lì nel giardino, ogni tanto ma magari le parla. Ma che cazzo vuol dire? Pure. Ma questa no, sta in casa, ha comprato anche in un gallo, appartamento poi. In casa. In un ma senti, cosa vuol dire? Ma rispetto a quelli che hanno il pitone, lì ci sono, cioè, sai che ci sono persone che hanno anche il cioè, serpente. Tu dici rispetto a Mauro Damanto, ma tu vuoi dire, no? Rispetto a Mauro. Quello neanche lo paragono all'umano sentire. Esatto, c'è chi ha in casa Mauro Damanto, ma meglio avere una gallina in casa, no? Piuttosto che uno come ma no, sai che c'è? Sai che c'è? Ma dai, ma meglio, ma la gallina tutta la vita, dai. Meraviglioso. Le galline, intanto io vivo in un appartamento, insomma, mm-hmm. La Nina è una gallina malese molto molto piccolina, piccolina. Cui, insomma, è tutto di conseguenza, perché la prima cosa che mi chiedono è dove fa la caccia. La farà dove la facciamo tutti. Sì, no, sul magari. Purtroppo no, quello è l'unico neo, vabbè, ma sorvoliamo, insomma, fa delle cacchine comunque molto piccoline, molto ma sode, sì. che con attenzione raccolgo, ecco, quella è l'unica stiamo nota. Servendo a Cruciani su un piatto d'argento molto materiale. Io voglio dire una cosa, no? Hai sentito una grande trasmissione? No, ma hai sentito la Celentano, no? Il marito, sì. Persone gradevoli proprio perché tu hai sentito la Celentano che ha detto: beh, farà la cacca dove la facciamo tutti. Ma c'è evidente. Ma di cosa stiamo parlando? Ma, cosa ma invece cosa, quella ma è giustamente quella là strano? Che è più normale della Celentano. Cioè, quella che ha la gallina è più normale della Celentano. Ma cioè, mentre quella è così, è quello che è, quella più normale dice: no, veramente non la fanno. Cioè, non è che va al cesso, si mette là con le gambe larghe la gallina sul water e caga. Tutti, cioè no, bagno. Non fa così, quando la fa per terra. La fa ma nel letto, la fa ovunque. Perché, ma no, ovunque. Tanto le fa no, piccole. L'illusione sono cose... della Celentano, che è tra le due è la meno normale, diciamo. Ma tra... non è vero, ma anzi, ma scusa, ma allora, hai mai avuto un gatto? Aspetta, fermati, quando uno fermati, ha un gatto, fermati, cioè fermati una... un secondo, no. No, ma hai sentito la risposta qual era? No, beh, la farà. Dov'è che fa la popò? Dov'è che fa la cacca nel la gallina? Bagno, no? No, ma non è vero, la farà dove la facciamo tutti. Bagno, la ma che educa la gallina? Si può educare. Cosa educhi? Si può educare anche la gallina. Le galline sono animali molto intelligenti, conoscono i rudimenti della geometria euclidea, sanno contare e, come diceva Angelo, appunto loro hanno un cervello con una densità di neuroni. Il cervello, però, abbia ragione, essendo uccelli deve essere tutto molto leggero per volare, ma hanno una quantità di neuroni in proporzione molto molto densa, addirittura anche superiore ad alcuni primati. Ragazzi, però io non ce la posso fare, la geometria euclidea non ce la posso fare, perché magari sarà anche vero. Quelle non lo galline so. Lo cantavano anche, se tu ricordi, lo cantavano Pozzetto e sì, quell'altro. Sì. Cocchi Renato, bravo, sì, Cocchi Renato. Cocchi Renato, la gallina lo sai che è un animale intelligente, lo cantavano anche loro, quindi è vero. Sì, per carità, la porta fuori, questa la porta fuori senza guinzaglio, adoro la spiaggia. Puoi mettere il guinzaglio alla gallina, non ce la faccio, non ce la posso fare. Lei ha la possibilità di uscire comunque qui, la porto regolarmente fuori, quando tu vedrai la pagina della Nina la vedrai in spiaggia. Ma come, cioè, tu la porti fuori senza, ovviamente senza un guinzaglio? Lei senza... mi sta appiccicata. Allora, il mio unico problema con la Nina è che lei è molto piccola, pesa 2,5 kg, quindi la porto solo in ambienti molto controllati, perché certo. Ho paura dei cani. In certo. Spiaggia, lei adora la spiaggia. Ma come dai, è stata bella la spiaggia. Ma tu quindi sì, vai in vacanza con la Nina? Sì, in Versilia, sotto l'ombrellone, ma è stata tu... benissimo. No, vabbè. Ma io vado in vacanza. Tu con chi vai in vacanza? Tu adesso oggettivamente non puoi pensare che tutto questo sia normale, che mi fa incazzare. Perché pensi che non sia normale uno che parla di sesso dentro la casa del Grande Fratello, parlando di dettagli, e pensi che sia una porcheria. Una invece che dice: io vado in vacanza con la Nina, è una gallina di 2 etti fottuti e mezzo. Ma perché ti fa che, così tra l'altro, ha paura del cane. Così rabbia? Allora, questi animalisti. No, ma non mi fa rabbia, non me ne frego totalmente. No, ma li tratti con disprezzo, ma ti hanno fatto qualcosa. Perché? No, ma perché ha paura del cane poi? Perché ha paura del cane? Perché ha paura del cane? Beh, la gallina ha paura del cane. Allora c'è perché qualcosa che cane, non va. Perché il cane vede la gallina e magari le abbaia e Nina, poverina. Ragazzi, ma tu non puoi pensare che sia, che non sia normale, giro. Che starnazza è russo. No, Cioè tu consideri i subumani, Russo e l'altro, come si chiama, Bettarini, invece consideri questa normale. Vabbè, d'accordo, ma che vuoi? Beh, sì, totalmente. Pensi che quelli là siano dei subumani? No, sono dei gente da caserma, dei subumani, che usano un linguaggio. Ma perché, che c'hanno quelli che stanno in caserma? Quelli che stanno in caserma, che c'hanno? No, ma quando gente si dice da linguaggio caserma. Da caserma, no, ma che hanno quelli che stanno in caserma? Di, ma è un, ma che è un modo male, di dire. Ma perché gli scatoli di porto, tu che sei? Scaricatore sei di veramente porto, di una sinistra snob. Ma che c'entra? Che male ti hanno fatto gli scaricatori di porto? Porto, che male ti hanno fatto? È un modo di dire, come dire chiacchiera. Sei veramente da bar. Razzista, sei di un razzismo. Come quando pazzesco. Uno dice chiacchiera da bar, dice tu parli come uno Giuseppe scaricatore di porto. Giuseppe della provincia di Chiede, il solito che ci vuole rompere i coglioni. Lo scaricatore di porto, come parla? Giuseppe della provincia. Dimmi Giuseppe, dimmi. Scusa un attimo, che sto molto nervoso. Non e sono nervoso. No, preoccupato, no, non sono preoccupato. Molto preoccupato, glielo dico io. Dimmelo tu. La barca affonda, la barca sta affondando. Quale barca? Quale barca? 10% meno 10% in borsa. Bilancio secondo trimestre disastroso, con debiti in aumento esponenziale. Prossimo aumento di capitale. Ma si sa al massimo fare di conto, ma neanche, ma vuole operazioni base. Con revisione dei contratti in essere. Ma di quali contratti di cosa parla? Non sa niente. No, sta parlando dei debiti del Sole 24 Ore. Ma che ne sa questo qui? Contratti del signor Cruciani, no, questo non se ne è parlato, amico mio. Ci sono altri problemi, credo. Stia attento, Cruciani. Il maiale, per cortesia, cioè il bip, non lo faccio parlare. No, però, Giuseppe, se devi chiamare, da un posto dove si prende il telefono a dire le tue minchiate. Non ha ancora capito. È da 6 anni che chiama. Tu ti dà l'idea del livello intellettivo di questo qui? Perché questi qua sono gli stessi. Chiamano, ma non chiamano, dicono. Stronzate sesquepedali, ma io non sono neanche telefonare. Crociane, fa sta zitto con la vicina. Non si sente. Devi imparare a telefonare prima. Si chiama radio. Prima di dire le tue stupidaggini, non pagate peraltro, puoi per cortesia imparare l'uso del telefono? Chi lo inventò il telefono? Puoi impararlo l'uso del telefono? Sono 6 anni che chiami e non sai telefonare ancora. Vai, Giuseppe, dimmi. Che sta parlando? Io c'ho il bip, non lo sento. Il maiale che le fa da Zerbino. Vabbè, che vuoi? Dimmi, Giuseppe, dimmi. No, che cosa vuoi? Preoccupato. Non sono affatto preoccupato, me ne sbatto i coglioni. C'ho un avvocato con le palle, vero? No, non è qui. Che c'entra l'avvocato, amico mio? Non c'entra niente, non sono affatto preoccupato, non me ne può fregare di meno. Mamma mia, che la mucca fa. Ma corresponsabile di che? Il contrario, io porto soldi, amico mio. Ma guardi, Cruciani, dai, come si vede se perdi il lavoro lì? Come si vede? Io lo so, come chi lo se ne frega, ma io voglio. No, poveretto, dai, oramai si è arricchito. Ma veramente non mi sono arricchito. Comunque, vabbè, se tu sei contento, sì, se sei contento di dire questo. Sono contento per le mie. No, però. Ma io vorrei capire, Parenzo, questo qua c'ha una famiglia, secondo te, questo Giuseppe? Sicuramente no. Sicuramente ce l'aveva, ma la famiglia, dopo che ha telefonato alla radio, l'ho abbandonato per l'eccesso di figure. Ma hai una famiglia tu, una moglie, ce l'hai o no? Certamente che ce l'ho. Ma perché non me la passi ogni tanto tua moglie? Passami tua moglie, voglio conoscere la moglie di un cretino come te. Ancora no, purtroppo, ma detto così, che solo i cretini, gli idioti sentono questo intervento. Appunto, compreso te dunque, compreso te, essendo ti sei dato la zappa da solo. Cioè sei un cretino, un idiota, e voglio capire com'è possibile che una persona, penso normale, come voglia, abbia potuto sposare un cretino Cruciani, e un idiota come te. Sa come lo dire? Ha presente quei demolitori ad aria compressa che si usano nei cantieri, no? Che le fanno ballare il rock and roll da 40 kg, no? Io lo vedo così. E poi il maiale lo Ma che sta dicendo questo? Non l'ha capita nessuno questa metafora. Non sei nemmeno capace. Non sei capace. No. Lei l'ha capito molto Vabbè, bene. Giuseppe, vattene a fanculo. Va, ciao. Siamo al top, ragazzi. Siamo al top. La zanzara. Michele da Macerata, vai Michele. Sera. Sì. Niente, io volevo portare la mia testimonianza, no, riguardo ai tumori. Di che cosa? Allora, c'ho mia madre, mia zia e mio zio. Sì. Tutti e tre con tumore allo stomaco. Mm, e si sono curati tutti e tre con la Dibella, senza chemio, sì. E ora stanno tutti e tre benissimo. Cioè tu mi stai dicendo che Dibella è una cosa diversa da tre tuoi parenti, sì, entrambi con tumore allo stomaco. La sorella e il fratello. Che cosa hanno fatto, scusami? Che cosa? Si sono curati con la Dibella? Sì, sì, si sono curati. Puro caso. 3 su 3 non mi sembra. Senti, tanto amico caso. Mio, la famosa cura Dibella che ha appassionato l'Italia per un periodo, perché sembrava che si potesse guarire dal cancro miracolosamente attraverso non con so la che somatostatina. Cosa. Allora, caro amico mio, è stata bocciata da tutti i consensi, se non per un complotto, semplicemente era un cocktail più che semplicemente altro, perché non funzionava. Ora, se tu ci io la credo differente, che non era brevettabile. Sì, ma Michele, adesso non vogliamo però una base scientifica diversa dalle altre macchiate di cui stiamo parlando. Un plus di vitamine, diciamo, la Dibella. Sì, però quindi... Michele, non è stata vagliata come una terapia valida, però aveva una base scientifica diversa dalle minchiate io di sono cui stiamo contento, parlando. Io sono contento che i tuoi parenti siano guariti, per carità, e ovviamente sono contento, ma io credo che non sia grazie alla famosa cura Dibella. Cioè, sicuramente, perché vabbè, ma tu credi alla cura Dibella? Benissimo, io non, per carità. Cioè, vabbè, io l'ho vista apposta, la credo. Cioè, e dunque, perché non viene introdotta? Secondo te, perché ci sono i complotti delle multinazionali con tutti i farmaci, la cosa? Sicuramente sì, sì, è l'industria del farmaco. Perché l'industria del farmaco. Come ha detto io, parlando con un professore che seguiva mia madre, che praticamente lì il discorso è che non sono brevettabili le vitamine. Vabbè, Michele, ciao. Dai, Franco Milano, vai. Franco Milano, pronto? Dimmi, Franco, dimmi. Io volevo fare un'osservazione nei vostri confronti. Lei un momento fa ha dato una notizia sulla... Io sono i 5 Stelle, parto. Uno dei 6 milioni di idioti che ha votato 5 Stelle nel 2013, secondo il suo compare lì di Merende. No, ho detto idioti. Il signor Resi, che continua sempre a dire che siamo idioti. No, mi sono permesso di dire idioti. Ha capito. Mi fa parlare... Lei non ho capito, Franco, qual è il problema? Qual è il problema? Ho detto semplicemente che c'è un'inchiesta delle Iene, allora, sul fatto che alcune... archiviata. Ma non c'entra niente, su alcune firme... L'inchiesta è stata archiviata. Sì, ma non ci sono, non c'è solo l'inchiesta archiviata. C'è una... No, l'inchiesta è stata archiviata, allora deve dire... L'inchiesta è stata archiviata. Ci sono dei testimoni oculari di quella vicenda? Ma questo è un altro discorso. Se per il giudice non ci sono gli estremi di reato, lei perché continua a... Amico mio, ma lo dica alle Iene, non lo dica a me, ma lo dica alle Iene. Lei fa un'informazione di regime, lei ma fa quale regime? Lei le carenze. Ma le carenze sarai tu. Ma sei anche votato 5 Stelle, Cruciani. Tu sei un leccagrillo, io potrei dire che tu sei un leccagrillo. Ma io sarò un leccagrillo, sarò un leccagrillo e lei le carenze. Io Renzi non me ne frega nulla di Renzi né di Grillo. Ma perché dà sempre questa informazione? Vedi l'informazione prima, no? Senti, amico mio. Allora dica che c'è stata questa richiesta. Non c'entra nulla. Ho detto che c'è un'inchiesta delle Iene, non un'inchiesta della magistratura, dico non mi frega nulla dell'inchiesta della magistratura. Vale per quello che è, poi vedremo come si svilupperà. In cui c'è un signore che dice che ci sono le firme che sono state falsificate, sì. Punto e allora, basta. Ma le firme sono state, però è stata archiviata. Ora che cos'è il complotto? Il complotto delle Iene? Cosa c'è? Il complotto delle Iene? Ma come lei ha fatto Mediaset contro Grillo, che cosa? Io ho parlato di inchiesta delle Iene, a me dell'inchiesta della magistratura sulle firme false, archiviata, non archiviata, non me ne può fregare di meno, capito? Perché le inchieste qualche volta vengono archiviate. Esatto, qualche volta è più. Ma non è detto, qualche volta è più interessante quella giornalistica dell'inchiesta della magistratura. Ho capito. Capito? Ho capito. Ciao, bene. ciao. Arrivederci. Allora ragazzi, leggo sul giornale, Comune di Milazzo, 59 obblighi di firma, massaggi o ad allenare la squadra di basket nelle ore di lavoro. Cioè praticamente una serie di dipendenti comunali, molti dipendenti comunali a Milazzo, siamo in Sicilia. Sicilia, come no? Milazzo. Si sarebbero assentati dal posto di lavoro, altri avrebbero coperto dei colleghi che invece risultavano ufficialmente al municipio, ma che in realtà erano da tutt'altra parte. È curioso il caso di questo qua che praticamente andava ad allenare la squadra di basket e addirittura c'era il referto, firmando da allenatore il referto della Federazione di Pallacanestro, capito? Vabbè, questo si chiama, mi sembra, Principato, signor Principato. Principato di Monaco. No, Principato di cognome. No, Principato, capito, di... Ma abbiamo un prezioso telefonino di questo prezioso, signor Principato, sì. O un numero di casa, non mi ricordo. Facciamo il numero che dobbiamo fare, vai. Vediamo chi risponde. Pronto? Cercavo il signor Principato. No, non c'è. Nello Principato, lei è la moglie? Sì. Salve, buonasera. Era. Chiamo da Milano, il Sole 24 Ore. Sì, dica. No, cercavo lui per questa storia qui delle partite di pallacanestro, capito? Vabbè, prima o poi ci verrà a sapere qualche... No, ma io per carità la voglio far parlare per capire se è vero o se non è vero, mica sto facendo accuse, me ne guardo no, bene. Appunto, dico, ancora è troppo presto. Ma non me lo può passare un attimo, signora, scusi? Ma non c'è in questo momento, non glielo posso passare perché non c'è. Ah, tecnicamente non c'è? No. Dove sta? Va allenare la squadra di pallacanestro? Dove sta? No. No, per carità, ma è vero sta cosa qua che si faceva firmare il... non andava a lavorare, invece andava... ad allenare la squadra o no? Signora, lei che è la moglie lo dovrebbe sapere o no? Saprà, dai. Lei ce l'ha una moglie? Io la moglie, ma ce l'avevo. Ce l'aveva, quindi si mette la mano sul fuoco di sapere tutto quello che fa il marito. Per carità. È onesto da parte sua. Lei dice, io non metto la mano sul fuoco manco su mio marito. No, però ho letto quello che viene contestato. Che dice lei? Le dispiace? Che vuole che dica al momento? Che ne so, magari che ne so, ho fatto una casa, magari mi dice, lo dipingono come un mostro. Certo. Vabbè, ma come un mostro, è uno che ha fatto un trucco, magari, non lo so, cioè voleva andare trucchettino all'italiana, dai. No? Che dice? Vabbè, ora non ho voglia di... No, ma per carità, signora, noi non stiamo qui ad accusare nessuno. Vorrei capire se per lei è verosimile la cosa. Cioè, se lui... perché magari era talmente appassionato di pallacanestro che niente, non ce la faceva a resistere e andava... Per me non è vera. Non è vera. Cioè, è proprio uno rispettoso degli orari, tutto preciso, eccetera. Certo. Certo. Vabbè, è per carità, è il marito. Però prima mi ha detto che non mette la mano sul fuoco. La mano sul fuoco non ce la mette nessuno, però sì... Se io so in che giorni ci sono le partite, i cose non possono corrispondere agli orari di lavoro. E come mai? Quindi, perché non siamo così ignoranti da mettere le partite durante le ore di lavoro. Vabbè, ma qui comunque lui adesso c'ha l'obbligo di firma, suo marito. Sì. Non è bella sta cosa, sembra quasi un criminale, come quelli dello stadio, no? Sì, infatti, come lui pensano altre 30 persone. Altre 30 persone. Vabbè, sì. Signora, che vuoi dire? Tutto il mondo è paese. Che bisogna... Infatti, sono 75 in tutto. Dico, prima vediamo se è vero. Vabbè. Cara signora, auguri, tanti auguri. Grazie. Mi raccomando, tanto in Italia non cacciano mai nessuno, non si preoccupi. Non c'è problema. Non licenziano. Andremo volentieri. Dico, vorrei andare via volentieri dall'Italia, fosse possibile. Addirittura dall'Italia vorrebbe andare via? Certo, sì. Che mai? Perché? Perché è un paese che fa schifo. Paese di merda, dice lei? Certo. E perché? Per queste cose qua, dice... I delinquenti sono in giro, dico, perché magari c'è un giorno contestato. E invece vanno a pizzicare quelli là che magari fanno qualche piccola marachella, no? Carità, è giusto che li pizzicano. Però dici i grandi criminali fuori e noi qui messi alla gogna. Io ho letto, dico, c'è un giorno contestato, quindi... Un giorno, dice, fosse anche un giorno contestato, dice, non è che è un criminale, no? Direi di no. Comunque, guardi, in Italia, signora, non si preoccupi, non cacciano nessuno, non licenziano nessuno, impossibile. No, non lo fanno. Appunto. Arrivederci signora, arrivederci, mi raccomando. Saluti cara. Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Bugiarda! Questa è la conclusione della zuffa tra Eleonora Brigliadori e la Toffa e un assistente della Toffa, una che faceva le riprese, che si era finta malata. Senti però cosa diceva la Brigliadori a una malata, più o meno ricalca quello che abbiamo fatto noi un paio di settimane fa, no? Quando sì. la finta malata aveva chiamato la Brigliadori con risultati più o meno simili. Senti. È facile da guarire tra i tumori, basta arrivare attraverso la percezione dell'elemento del sentimento a perdonare la causa, che si scioglie questo tumore, si sblocca la percezione. Se il tumore è maligno, è già in soluzione. È proprio maligno, Eleonora, a me me la non so se... Ma il maligno, tesoro mio, alla luce di quello che ha spiegato Amer, vuol dire che sei già in soluzione. Poi c'è anche una cosa che non ho sentito, la fitolacca, la pomata alla fitolacca. Senti, senti, sono guarita dal tumore grazie alla pomata alla fitolacca. Senti. Sì, come il sale della vanna. D'accordo? Io stesso ho avuto un tumore al seno, ho usato una pomata alla fitolacca, credimi, ci sono persone che dopo 6 mesi da una telefonata mi hanno chiamato e mi hanno detto: sai che sono guarita grazie a quella telefonata di quel giorno, perché mi hai dato quella forza che mi mancava. E poi le parole, le aggressioni. Incredibile, eh? Senti, senti. Eccola qua, quella che si nasconde con gli occhiali, che mi ha detto che aveva un tumore. Una di questi demoni, no, ti piglio per la coda. Fatti vedere con la faccia chi sei. Che è venuta con un microfono nascosto nella borsa. Sta stronza, ti aggredisco, sì. Tu sei falsa. Tirati fuori sti occhiali. Pezzo di merda vivente! Pezzo di merda vivente! Schiava dei demoni! Falsa! Ipocrita! Bugiarda! Senza Dio! Senza Dio! Allora, Mauro, Firenze, vai. Ho scritto un messaggino a Orban, eh. Mauro. Sì, Mauro, dimmi. Dimmi. Ho scritto un messaggino a Orban. Parlare un po' a zero su questo dittatore di Beppe Grillo, tutti che lo... quello di prima, il Lecca Grillo. Che questo è un dittatore. Questo non è, non è la democrazia, non sa neanche dove sta di casa questo personaggio. Cioè? Va bene. Cioè, chi ha nominato Casaleggio, il figlio di Casaleggio... C'è stato un referendum, c'è stato un dibattito nel movimento. Chi lo ha nominato? Cioè, tu dici lui? Quello che è dietro le quinte, insomma, governa. Ma se a loro va bene così? Quello, ma scusi, è il pizzeraio magico. Ma se a loro va bene così, qual è il problema? Va bene così. Allora, Pizzarotti, il sindaco di Parma, riconosciuto innocente, le accuse mosse a lui, innocente. Va bene, non è stato reintegrato, non è stato... reintegrato nel movimento, lui ha chiesto. Vabbè, Mauro, ma io non ho capito, ma tu sei un ex del movimento, hai creduto in... No, no, io sono comunista. Tu sei comunista? Sono comunista. Che cazzo vuol dire che sei comunista? Sono comunista. Che cazzo vuol dire? Comunista? E sei impazzito? Com'è che esiste ancora il comunismo? Sono comunista. Sì, esiste ancora i comunisti. Quelli veri esistono ancora, Cruciani. Comunisti? Ma sei peggio. Il comunismo ha fatto più morti del fascismo. Ma che c'è? Il comunismo italiano ha salvato. Ma che dici? Non dire cazzate, Cruciani. Ah, no. Il Partito Comunista Italiano ha firmato la Costituzione, c'è acqua di la bocca. La firma. Il Partito Comunista ha firmato la carta che ti permette di dire ste cazzate. Ma dica, ragazzi, ma io vi lascio parlare, vi lascio parlare perché siete al delirio, per cui non sai niente, lo sai. No, ma lui ce l'ha con te. Non me frega niente. È stato falcidiato dai nazifascisti in Toscana. Ma Mauro, io non ho capito, ma come fai oggi, al di là della questione morti, non morti, tanto comunque c'ho ragione io perché lo dicono le cifre, che il comunismo ha fatto dei crimini molto superiori a quelli nazisti. Umberto Terracini, ma i comunisti hanno firmato la Costituzione. Ma chi se ne frega, Mauro? Non può essere il comunismo sovietico il nostro. Mauro, ma quale veniva? Ma che cosa? Non può essere, grazie a Micio Gelli che non ho visto il Partito Comunista. Perché altrimenti che c'era? Eravamo nell'Unione Sovietica. Grazie a questi bastardoni, hai capito? Vabbè, Mauro, ma quelli che sono morti per la libertà, ma questo i partigiani delle Brigate Garibaldi. Io onore al sindaco di Follonica che ha intitolato la strada più importante Follonica ad Alfio Bicocchi. Vabbè, Mauro, ma io non ho capito una cosa. Scusami un attimo, al di là di queste discussioni di cui non frega. Oh, ma stai calmo, stai tranquillo. Che mestiere fai tu? Il camionista. E sei comunista, esatto. Così com'era Mario Brega? So comunista così. No, buttiamo. Mi sembri Mario Brega, mi sembri Mario. In barzelletta. Ma che barzelletta? Ma certo, più di barzelletta di quella che stai dicendo tu. Tu dai visibilità a un cretino americano, a un deficiente americano. Ho detto che ha ragione. Due giorni in trasmissione a Palazzo di Canio. Che cazzo ce ne frega a noi se non va a Grande Fratello di Canio? Cazzo me ne frega a me di Canio a Grande Fratello? Ma domanda accenti italiani. Stai facendo un po' di confusione. Domanda accenti italiani. Ma stai facendo un po' di confusione tra Dicani e Grande Fratello, sono due cose un po' diverse. Cruciani, ascolta, sono morti centinaia di partigiani in Toscana. Ma a me che molta cazzo me ne frega, siamo nel 2016, È uguale. Ma scusa, non credo, come fai a dire oggi che sei comunista? Non ti vergogni? Io me ne vanto. Ma ti devi vergognare, ti dovresti vergognare. Vergognati. Ti fai parlare un cretino di quella Parietti, dov'è la Parietti? Quel deficiente. Ma ti dovresti vergognare di dire che sei un comunista. Vergognati. Mauro di Varese, voglio a cercarlo. Chi? Lo fai a cacci nel culo per tutta l'est. Donato, adesso te lo chiamo, Donato, ti fa un mazzo così. Chiamalo questo pezzo di merda, chiamalo. Chiamatemi Donato. Questo pezzo di infame merda. Ma perché? Che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Mi sale il livello. Io i morti in famiglia per i fascisti. Ho avuto due zii fucilati dai fascisti. E chi se ne frega? L'attacco. Ma chi se ne frega? Sono affari tuoi che appartengono al 45. Che cazzo ce ne frega? Posso dire il mio parere io? Ma ti devi vergognare? Io mi nasconderei, sono comunista. Ma ti devi vergognare? Non io. Mi nasconderei. Il comunismo è la Corea del Nord, la Cina. È Cuba. Il comunismo cubano, la dittatura cubana. Vergogna. Non sei mai stato che a Cuba. I comunisti ammazzavano gli omosessuali. Trituravano i gay. A Cuba, coglione. Trituravano i gay. Dopo 40 anni di embargo sono avanti a noi, anche ma che avanti a noi, ma vai a fare il culo Parenzo, adesso non dici nulla su questo, no? Beh, la democrazia cubana ha dei problemi riguardo ai diritti civili, ma non c'entra nulla. Fai pure il camionista poi con tutti gli amici miei camionisti che ci sono. Ma Cuba, sei una vergogna per la categoria dei comunisti. No, amico mio, mi spiace dirtelo. Non ho capito che pensi di Donato. Quello è un deficiente. Perché? Che ti ha fatto? Ti penso di impressionare tu. Sto coglione, lo so, quella sola ammazza di bravo. Ma scusa, impressionare questo imbecille. Ma perché? Che ha fatto? Scusa, è uno che ce l'ha preso con la Parietti. Ha detto tutti i criminali comunisti, tutti i criminali, oh pezzo di merda, se lo prendo lo scollo. Donato, bravo, Donato, bravo. Senti, io a Milano, aspetta, fermo, vengo, ma che scontro di cervelli. Io questo idiota che l'Italia si è arrivato in questo stato, è la sua gente, sono i porci comunisti, sotto mentite spoglie. Hai capito? E Renzi non è un comunista, ma sta lì, è in quella merda lì, l'Italia. Vabbè, adesso che l'hanno rovinati i partigiani, c'erano quasi tutti i criminali che hanno ammazzato migliaia e migliaia di persone che erano innocenti, quei cornuti che odiavano Mussolini. Ma hai sentito questo? Vabbè, adesso non esagerare. Potere! Ucciditi, merda, uccidi! Io amo la gente, ma non posso amare gente come voi. Che cazzo vuoi riscattare dall'Italia che l'avete rovinata? Aspetta, ma che c'entro io adesso? Però di quel pacco di napoletano, quella sciamella di Campi, uno scontro tra le migliori intelligenze. Mauro, aspetta. Fermo là, Mauro, dimmi, Mauro, che c'è? Proprio uno scontro. Lui viene, ascolta, io sto andando a Milano, guarda. Ma che bello. A Milano. Dimmi se la Sicilia, ci incontriamo. Dai il mio numero a questo infame. Ma che ha fatto? Che ha fatto? La faccia, Donato, bravo. Ti difendo io poi. Ti faccio difendere da mio padre che fa l'avvocato. Vai pure, ti difendo io gratis. Ma dove vai? Ma non ho capito dove vuoi andare. A Varese da Donato. Donato, questo ti vuole rincorrere fino alla fine a Varese. Qui? Ma che adesso ragazzi, però ma scusa, guarda, questo idiota sarà, guarda, questo idiota sarà probabilmente un comunista in buona fede, perché io non elimino mai. Cruciani, io la busto via tutta via quando Cruciani, è un po' matta. Che c'è, il Mauro? Dagli il mio numero, Cruciani, dagli il mio numero, Cruciani. Ma parlatevi tra di voi, che volete dire? Dagli il mio numero. Io vengo a Milano stanotte. Io vengo. Vai te, è dei comunisti. Quella RAI deve essere smantellata e data alla gente onesta, quella che ama il popolo, quella che vive per il popolo, quella che per il popolo si sacrifica. Ma che di merda. Ma scusami, fermi tutti. Allora Mauro, io non ho capito una perché una volta c'era lo scontro tra tipo Ferruccio Parri e Parmiro Togliatti. Oggi tra però esempio, adesso si fa una cosa per non la mandare in barzelletta perché tu sei dalla parte di Mauro, non la stai mandando, no, come dire, mandando in dalla parte del sei dalla parte di Mauro e del comunista, sei dalla parte del comunista ragionevole, ha detto ti spacco la faccia, vado a Varese a spaccarti. Beh, alle volte uno schiaffone non fa male, a Donato da Varese uno schiaffone non gli fa male, dai. Mauro, a lui e Mauro da Mantova eccetera. Se lui è solo capace di parlare dietro un telefonino, è un uomo di mezzo. E venga a Milano. Io vengo a Milano. Ragazzi, ma viene a Milano, vai, che fa? A Milano, bravo, lascia che vada a Milano. A suo passaggio. Donato, tu sei un pacifista, Donato, sei ma un pacifista. Ecco chi sei? Violento, sporco violento! Condanniamo Napolitano! Ma che c'entra Napolitano adesso? Napolitano come sotto i colpi di Stato! Ma Napolitano è un figlio di puttana! Ma adesso, ragazzi, però non si può accettare. Ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? Ma non si può, ma chiudilo! Con l'euro, che non Mauro, Donato, fermala, ma è andato fino all'euro. Questo dice la parietti, sei imbecille. Vabbè, questo Mauro, deficienti. Mauro, capisco che ha ragione Parenzo, che qui non siamo a Ferruccio Parri contro cosa. Questo no, mi pare evidente. Siamo tu, ascolta, senza fare tanti clamori, tu hai il mio numero, dagli a questo bastardo. Ma no, ma che gli do il tuo numero? Io mi rompo le ossa, questo. Ma perché gli devi rompere le ossa? Fai il camionista, sei una persona seria, avrai una famiglia. Avrai una famiglia. Tre figlioli grandi c'ho anche. Tre figli grandi e sei pure comunista, amico mio, ma non c'è capito una mazza però. No, sono un figlio grande io. Che è più comunista pure lui. Certamente. Mamma mia, essere male. E ne sono orgoglioso io. Donato, questa è una famiglia di comunisti, Donato. Guarda, questo uomo qui, no? Sì. Probabilmente, io mi voglio fare un giudizio. Questo ultimamente sarà una persona brava. Però? Sarà una brava, probabilmente sarà una persona che lui ha una coscienza pulita. Però purtroppo se si guarda indietro, il comunismo ha fatto, mi sembra 250 milioni di morti, no? Perché non è il comunismo. Ha fatto un sacco di morti, questo è vero, sì. Ha fatto 250. Ma cosa discuti? Aspetta. Stanno in Italia, hanno paura dei fascisti. Hanno paura? I fascisti. Che cazzo hanno fatto? Negli ultimi 70 anni, che cazzo hanno fatto? Io sono quelli che rompono le piazze, quelli che scassano, quelli che uccidono. Sono quelli dei centri sociali, quella razza amorfa. Quei figli borghesi, quei figli dei ma questo fa il camionista, quello fa il camionista. Non vanno mai a ma questo fa le banche, questo fa il camionista. Le banche sono i padroni, sono i loro padri. Ma è questo sociali. Fa il camionista, Mauro, fa il camionista. Digli. Sono condannato a 15 anni, Fiore, ti porta nuova. È il Parlamento, sto pezzo di merda. Ma chi Fiore. È? Ma che c'entra? Fio non è in Parlamento. Di forza ma non è in Parlamento, per fortuna. Dov'è? Nella camera. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Comunque, ancora ci sono gli scontri tra comunisti e fascisti, come avete sentito. Ciao. A socco io mica sono comunista così, sa. Sono comunista così! La Zanzara. Non scordatevi il numero del cuore. 393 71 71 701. Parla di figa, per favore, a noi non frega in caso di niente. first time. Ragazzi, a proposito di scontri epici, mai come quello che avete appena ascoltato, se ne faceva menzione anche nel dibattito all'Assemblea Costituente, si usavano gli stessi toni, probabilmente non sarebbe stato male, non sarebbe stato male se i toni fossero stati questi invece di partorire una cosa comunque, insomma, che è quello che è. Carta che ancora vale comunque, sì, piuttosto inconcludente, diciamo. No, Lemme Platinetta, amico Lemme, mio, Lemme, il professor Lemme, te lo ricordi, ma no? Continuiamo a tenere il livello altissimo. Quello che pensa che le donne siano stupide, sì, che le donne siano tenere... Ma che cosa vogliamo parlare? Del PD che querela la RAI per mafia capitale, questo e il contrario, questo a colpi di querele, carità, vogliamo parlare della Raggi e del PD di che questo per carità, appunto, amico mio. Della sonora sconfitta che l'amico di Donato da Varese ha subito, cioè questo tal Orban è un personaggio tal ottimo. Viktor Orban, sì. Non ha Viktor proprio niente, perché ha perso. Ma comunque io mi occupo di Lemme Platinet. La cosa Lemme è sempre la stessa. Platinet pare che sia andata dal professor Lemme per una dieta dimagrante ed è stata respinta, secondo Lemme, con perdite. I due non vanno molto d'accordo. Senti. Lei conosce Platinet? Sì, lo conosco. Dico subito che lui è venuto a me 4 anni fa e non è stato accettato perché non è in grado di fare questo percorso. Ha fatto il test e ti prego, sia comodo. No, bello! Sì, bellissima, bellissima. E a quanto riguarda, che tipo è lui? La vedi dire qualcun altro perché sono dico un uomo. Subito, che cos'è? Se non sai cosa sei maschio, non è che tu non mi hai accettato. Io non ho accettato te. Il resto tra poco, Il resto tra poco. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento La Zanzara. Lemme Platinet, il ciccione, adesso io non lo dico in maniera insultante, l'uomo in sovrappeso che si rivolge al medico, poi litigano. Tu mi hai detto dopo avermi rapinato di 200. No, false bugiate come le donne. Non ha pagato una lira. Testa di donna. Grande testa di donna. E tu mi hai detto: se vuoi dimagrire mi chiami da domani ogni giorno. Ma non è vero, è bugiardo. Io ci penso. Ma sono tutti così, è un così questo qui. Quella che non prevede che io paghi, un truffatore. No, non dica sciocchezze. Passo dalla testa di donna, testa così così. Da un brutto uomo come te, se era tuo figlio. Tu te lo sogni un maschio italiano come me, testa di donna così così. Anche qui scontro al vertice, scontro al vertice. Platinet è intelligentissimo, anche Lemme. Sono persone intelligenti che si prestano a una battaglia, si prestano a una grande battaglia, perché quello là è uno che viene considerato un cialtrone da Platinet. Cioè, la grande domanda è questa: Lemme, questo che fa dimagrire con i bomboloni alla crema la mattina, è un cialtrone oppure no? No, in realtà in molti mi hanno spiegato che il fegato la mattina è in grado, se riceve una botta, ti consigliano in tanti di mangiare il fritto la mattina, questo è vero. Sì, ho capito, però te fa male poi. Cioè, alla lunga perché ti fa la mattina male. Il fegato. Vabbè, ma ho capito, ma al di là di questo, Lemme è un cialtrone oppure no? Cioè è uno che ruba i soldi oppure è efficace quello che dice? Secondo Platinet è un cialtrone. Comunque ti voglio dire che la... Non vuoi dire un cazzo, senti. No, voglio dirti questo, che Robert Cannuna mi ha scritto: io la Brigliadori la ricordo ancora per la magistrale interpretazione di Liliana in Rimini. Beh, certo. Una scena che mi ha cambiato la vita. Abbiamo mandato anche sai qui. Sai qual è la scena l'abbiamo che ha cambiato la vita? Sì, certo. Vuoi sapere qual è? Sì, qual è? Dimmi. Scrive Cannuna, quando per carità. Sì, certo. Brigliadori in Rimini, alla fine si faceva, dal figlio della sua amica di cui era ospite, il mitico Pio. Si faceva scopare dal figlio della sua amica di cui era ospite. Sì, ma ho capito, si faceva scopare. Tu parli per conto, ventriloco praticamente. Cannuna una cosa commenta e dice: una scena che mi ha cambiato la vita. Ma certo, perché Cannuna è un uomo di mondo. È uno stimato professionista. Il quale si riempie di pippe la mattina. mattina alla sera, si riempiva no, almeno ecco, di pippe dalla mattina alla sera, prima, non adesso. Non ti permettere. Ma è normale che sia così. Così, vabbè. Robert Annuna, non ti permettere. No, ma io lo adoro Annuna. No, tu non sai i messaggi che ho ricevuto su Annuna, su Annuna. Sarà contento, femmine, maschi. Dite, ah, vogliamo Annuna che ci racconti come il suo maschi? Filettino dove è finito. Il suo ma la... che dite? Ma è un grande professionista, Annuna, ma, dai. Ma ho capito, pieno di messaggi, di gente che vuole conoscere tutti i segreti della, come si chiama? Ripetimela tu, della... della circoncisione, della circoncisione da Hannuna, e lo vuole editorialista fisso alla Zanzara sulle cose ebraiche. Scusami, è pieno di messaggi, se vuoi te li mando tutti, dai. Lemme Platinetti. Vedete com'è il cervello? Lui è la brutta copia delle femmine, ma vi rendete conto? È un così. Lui è la brutta copia, è un così, così, così. Ma vedete come si comporta? Vedete che non riesce a usare la logica. Italiani, ascoltate, ma vi rendete conto cosa di dettare la sanità? Non fate questo errore! Non date dei soldi a coloro che vi prometto! E tu rimarrai ciccione a vita! È ovvio che la no, non è vero! Testa di così così! Funziona per il suo conto! Non stop me! Vabbè, andate avanti così, non sei degno della mia cultura, bestia, fai la fattura, non mi dici testa di donna, perché per Lemme dire testa di donna è un insulto, capito? È incredibile. Cioè, è un insulto. Poi dici, se la prendono, no, ma se la prendono con coso, se la prendono con Russo, allora avrebbero dovuto cacciare Lemme dalla D'Urso 100 anni fa, che dice che le donne sono sottosviluppate, scusa, non c'è coerenza in questo, lo sì, dice questo consapevolmente, lì, fisso ospite, è scelto brutto, come però, ospite. No? Ma non è, con me no, che è no, ma non me ne frega niente, no, brutto. È brutto, brutto, bello, non mi interessa. Dico semplicemente una cosa: vogliono cacciare il Russo dal Grande Fratello accusandolo e l'altro di misoginia. Questo Lemme è ospite fisso, fisso, e secondo me dovrebbe rimanere, ecco, si è arrabbiato, ospite fisso dalla D'Urso. Ospite fisso, chi è che si è arrabbiato? Io? Si è arrabbiato Hannuna, ma ha scritto mortacci suo, mi ha dato del piparolo in diretta, no. Maledetto. Anzi, ti faccio, ti faccio, ti faccio sua. No, Piparolo prima, non adesso. Mi ha dato, ecco, prima, quando era giovane, come tutti, come chiusi tutti. I rapporti anche con no, aspetta, fammi sentire. Eliminate anche con senti, lui. No, perfetto, invece li riapri in questo modo. Li riapri in questo modo. Rimini, Rimini, Brigliadori in Rimini, Rimini. Senti, la scena incriminata. Ma chi è, Liliana? Posso dormire qui con te? Ma io veramente ho paura dei mostri della TV. Dei mostri? Io te l'avevo detto. La mamma mi fa dormire sempre con lei quando ho paura. Tu non hai un figlio? Io? No, purtroppo. Allora facciamo finta che io sia il tuo bambino e tu la mia mamma. Sì. Io faccio la tua mamma e tu fai il mio bambino. Ora mi sento al sicuro. E tu? Io? Ma... che fai? Ma pio pio. Buongiorno. Buongiorno. Che carino. Anche la colazione. Servizio completo. A proposito, se non ti dispiace, vorrei sistemare subito una cosa. Quale cosa? Sono 250.000. Scusa, non ho capito. Di solito alle altre amiche di mamma chiedo 300.000, ma ti ho fatto uno sconto. Non è poi tanto per provare il brivido del proibito, no? Ecco il tuo resto. D'altronde mi devo fare una base. Altrimenti come faccio ad arrivare al mio primo miliardo? Senza Dio! Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Oggi assaggiamo un ghiaccio autoctono italiano di colore grigio scuro. Il retrogusto amaro si abbina perfettamente a gite in montagna nel weekend. I sensori all-wheel drive Jaguar sono degli intenditori di terreni. Se serve, trasformano la trazione posteriore in integrale per darti il massimo in ogni condizione. Trazione integrale AVD Jaguar, l'istinto del controllo. Fino al 30 novembre, la trazione integrale allo stesso prezzo della posteriore. È in pieno centro o fuori dal centro? È nuova, da rimodernare. La senti giusta da subito o dopo averne viste 100? È piccola, ma ti farà sentire grande. Se trovi la casa giusta, oggi c'è un mutuo per non fartela scappare. BNL ti dà una risposta certa per l'acquisto della tua casa in solo 5 giorni. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Messaggio pubblicitario, finanziamento soggetto ad approvazione, fogli informativi su bnl.it. La super famiglia, unita per una casa super spettacolare, presenta Sky on Demand. Tesoro, oggi ne ho viste delle belle. Anch'io, duelli, alieni, draghi, scienziati, zombie, robot. Hai la super vista. No, tesoro, abbiamo Sky on Demand e mi guardo tutte le mie serie TV preferite. Super forma. Super spettacolare e a un prezzo super. Sky TV e internet di Fastweb insieme a soli 20,90€ al mese per i primi 18 mesi. Chiamaci 023681, info su sky.it. La Zanzara. Voglio Cruciani circonciso. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ho appena sentito la discussione di voi due con l'amico di Parenzo, Hanuna, riguardo alla circoncisione. Allora, io vi chiamo da Gerusalemme, Israele, sono metà israeliana, metà italiana, quindi ho fatto sesso sia con circoncisi che con non circoncisi, e mi spiace, stavolta ha ragione Cruciani, non cambia un cazzo. C'ho le palle piene! Allora, devo dire la verità che la testimonianza da Gerusalemme di quella signorina, sì, ho controllato anche il numero, ho controllato il numero, effettivamente è un numero, perché quando ti arrivano i WhatsApp c'è anche il numero di telefono, no? E il telefono era oggettivamente un telefono con il prefisso israeliano, per cui tutto tornava, no? Tutto torna. Sì, sì. Per cui mi sembra una testimonianza fondamentale rispetto a quello che diceva il signor Hanuna qualche giorno fa. No, Hanuna è uno dei massimi esperti, sa tutto. Beh, ho capito, è uno dei massimi esperti, però qui abbiamo la testimonianza diretta di una che ha scopato sia con i circoncisi, sia con quelli con ancora in possesso di tutte la pelle, e alla fine dice che è uguale, è la stessa cosa. Scusa. No, antisemita. Tra l'altro, io conosco un signore che vuole introdurre in Italia la mutilazione della circoncisione come la mutilazione, cioè vuole equiparare la mutilazione maschile a quella femminile, a quella maschile. Negli Stati Uniti d'America, paese civile, il 70% dei maschi sono circoncisi per ragioni igienico-sanitarie. Ma magari dopo i 18 anni. E magari dopo 18 anni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità per prima è una mutilazione. Perché è un intervento chirurgico. È una mutilazione. Approvato dai medici di tutto non il mondo. Non mi convinci, non mi convincerai, non mi convincerai. E non mi convincerai, che ti devo dire? Angelo da Genova, dai Angelo. Oh, ciao. Che c'hai? Che ti sei fatto? Che c'hai? Ma che sono fatto? Sono normalissimo. E che ne so, c'è una voce come se ti fossi... Io sono stupito dal fatto che voi vi siete stupiti che una donna tiene una gallina in casa. Sì. Non so se vi ricordate un giocatore che purtroppo del Genoa, che poi è passato al Torino, di nome Meroni, che famoso Gigi Meroni, dice. Esatto. Sì, sono passati anche alcuni anni. Sì, perché io ho alcuni anni anch'io. Vabbè, ma questo non significa persone bizzarre e strane, ce ne sono ovunque. Posso considerare una chi tiene una gallina in casa un po' bizzarro di testa, così, ma io pure sono bizzarro per tante altre cose. Figurati, io sono allora... bizzarro di testa. E teneva una gallina in casa, sì, e la portava fuori. Dunque? A Genova, due anni fa, sì, perché sto parlando da Genova, un signore aveva due cani e un cinghiale in casa. E i vicini di casa hanno protestato per il cinghiale, le hanno fatto tutti causa, hanno tolto il cinghiale, poi gliel'ha rimesso perché ha detto non c'è nessuna legge che vieta. Sì, è vero, Gigi Meroni aveva la gallina al guinzaglio, sì. E quello lì aveva un cinghiale, basta. Vabbè, ciao ragazzi. Daniele Pescara, vai. Eccoci, presente, dimmi. Allora, complimenti a te, Parenzo. No, niente complimenti, dai, vai. No, i complimenti sono meritati. Ma non ce ne frega niente, vai, dimmi. Ah, lo so che non te ne frega niente, però io volevo rispondere al signor Mauro. a premesso, io sono un anticomunista convinto, 11 anni di paesi dell'est, compreso Russia. Guarda che te lo richiamo, te lo richiamo. Ma lo puoi chiamare 3.000 volte, lo puoi chiamare, che venisse con me, io parlo il rumeno come sto parlando con te l'italiano. Dì a questo signore che quando sono arrivati l'invasione dei posso cogliere l'occasione di dargli auguri a Berlusconi? No, ma che ci frega adesso degli auguri a Berlusconi? No, 80 anni, perché per stai in America, perché adesso stai in America. Radio. Ma non devi strumentalizzare un cazzo, dai Daniele, ma forza, dai. Vai, su. Allora, premesso questo, il sottoscritto 20 anni fa prendeva 7 milioni e mezzo di lire al mese. Ma che c'entra, scusa, allora? C'entra che oggi non riesco, prima di tutto, a trovare il lavoro e quando lo trovo a 1.800 euro, 2.000 euro. Ma scusa, ma che cosa, ma che c'entra? Dipende dal lavoro che fai, amico mio. L'autista, il camionista, io l'ho specificato. Il camionista, dunque, che cosa vuoi dire con questo ragionamento? Prima guadagnavo 7 milioni, adesso 1.800, 1.600, cosa vuoi dire? Se trovi il lavoro, che siamo solo, esclusivamente abbandonati dall'invasione. Io non ce l'ho assolutamente. Ma chi è abbandonato? Chi è abbandonato? Da tutti, da che dici, Davide? Che dici? Non intendo mica da te oppure un altro, io intendo dallo Stato. Cioè, questo mi parla di comunismo, mi parla di quello, mi parla di quell'altro, mi parla... E non sa neppure che cosa significa il comunismo. Il comunismo è con la K. Che andasse nei paesi comunisti, che andasse a verificare questo signore. Come stanno, che cosa quali paesi? Quali paesi? Io glielo dico subito. Ex Romania, praticamente, dico sempre ex Romania perché adesso è diventato un gesto di quelli grossi. Sia di là che di qua. Premesso questo, che andasse in Russia. Ma in Russia non c'è più il comunismo, amico mio. Cioè... Lo so che non c'è più il comunismo, ma che io ci sono andato quando c'era il comunista, quando c'era Ceausescu, quando ci stava Yeltsin, e poi stava tutta sta monnessa. Quindi, premesso questo parla di comunismo, lui non sa neppure che cosa significa comunismo. Vabbè, Daniele. Non lo sa che cosa significa. Io ringrazio della Ciao, Francesco della Genova, presenza. Dai, Francesco Genova, dimmi. Giuse. Dimmi, Francesco, dimmi. Scusa, sono un po' giù. Che è successo? Guarda, è 9 mesi che sto con la mia ragazza e insomma volevo ampliare un po' gli orizzonti con lei, però lei mi ha messo davanti a una scelta. Qual è la scelta? Io vorrei fare sesso anale con lei. Vabbè, ma e lei mi ha detto ho il mio culo o la zanzara. No, ma che vuol dire? Scusa, non ho capito. Perché questa scelta drastica? Tu stai raccontando una cazzata. Dai. Sta raccontando una stupidaggine piuttosto volgare. Cioè, nel senso che non ce ne frega neanche ridere. Delle stronzate, appunto, o fa ridere oppure. Glielo racconti te. Dai, vabbè, ragazzi, dovete fare la scenetta qui. Dai, chi è? Come si chiama questa qua? Pronto? Ciao, ragazza mia, come ti chiami? Adriana, dai, però non ci venite a raccontare cazzate, che noi scopriamo subito queste cose, perché non venite a rubare a casa dei ladri. Cioè, noi siamo più banditi di voi, capito? Siamo più ladri di voi. No. Allora, se la tua ragazza alle ore 8:30, che ne so, insomma, ora di cena, prima di mangiare, ti dici, ma avrei voglia anche un po' di scopare, magari. Cioè, tu volevi scopare col tuo fidanzato? Volevo scopare con mio fidanzato. Ma c'è tutto il tempo per scopare, non è che devi scopare per forza adesso. Signora mia, perché non ha più l'intimità? Come ti chiami tu? Come ti chiami? Adriana, sì, scusa, mi avevi detto prima. Dunque, tu gli hai detto a un certo punto, verso le 8:30, voglia di scopare. Gliel'hai detto, no, gliel'hai fatto capire. Lavoro. Gliel'hai fatto capire. Sì. Vabbè. Lui è arrivato da lavoro e mi ero messa tutta in mise. Vabbè, allora? Allora è arrivato da lavoro e mi fa, no, adesso no, perché devo ascoltare la zanzara che in macchina con i miei colleghi non me la fanno sentire. Beh, ma ha ragione lui, scusami. Aspetta un attimo, c'è tutta la notte. Ma c'è tutta la notte, c'è amica malata. Adriana, ragazzi, scusami tanto. Cioè, non è che per forza. È malata. È un paese finito. Ma che malata? Scusa, è un paese tecnicamente finito. Se uno telefona in radio del giorno di Orban, che è il referendum bocciato dall'Ungheria, nel giorno in cui si parla di referendum, sì o no, nel giorno in cui si parla di Trump smascherato per le tasse, questa chiama. È un paese finito. È la dimostrazione che la radio, questa 24 e questa trasmissione, dimostra che è un paese chiuso. Allora, Adriano, io non ho capito bene. Tu alle 20:30, giustamente, tagli sulla storia di questa sciagurata che telefona in radio per confermare. Ma perché è sciagurata? Che è fidanzato? Perché non c'è intimità, Adriana, ma queste cose, scusami, qui l'hanno tenute dell'intimo alla fine, della chi casa ha vinto? Siete chi ha vinto? Degli sporcaccioni tutti quanti voi. Chi ha vinto? Ha vinto lui? Ah no, alla fine ho vinto io, perché poi... Cioè, quando è che avete scopato? Sono le 20:43, scusami, quando è che avete trombato? Ma no, oggi, non è successo oggi. Ah, ok. No, è successo i giorni precedenti. Alla fine avete scopato, questo è il punto. Sì, alla fine abbiamo scopato, ma lui pretendeva che io gli desse il culo. Vabbè, adesso questo qua, questo sono, oggettivamente la cosa non è molto interessante, sono dinamiche di coppia, sono dinamiche di coppia che ci possono anche interessare, ma assolutamente, ma che in questo, no, momento, in questo momento mi sembrano non particolarmente. Quelle sono affari vostri, perché non glielo vuoi dare? Questa è la domanda, ecco, che mi sorge spontanea. No. Ma se glielo chiedi, quella ti risponde. Mi sorge, no, spontaneo, ma... chiederglielo. Mi sorge spontaneo, cara Adriana. Perché, perché una parte del mio corpo vorrei che rimanesse vergine. Vabbè, ho capito, ma quello allora. Perché lo dice alla radio in diretta, signora mia? Perché non ve le risolvete per i fatti vostri? Ma scusa, giustamente quello là vuole andare un po' oltre, no? Che cioè... parlate di rotture di cazzo. No, giusto. Adriana, io scusami un attimo, da quanto tempo state insieme? 10 mesi. 10 mesi. Vabbè, amica mia, però quello in 10 mesi evidentemente vuole andare oltre, no? Vuole passare di grado, vuole salire vuole salire un po', diciamo, vuole salire nella... Quindi cosa devo fare? Che consiglio mi dai? No, il consiglio che ti do, questo non ti posso dare consiglio da questo punto di vista. Il sedere, il culo è tuo, amica mia, e che ti posso fare io? Cioè, non è che posso decidere sul tuo corpo, per carità. Dico, semplicemente, mi sembra... così un pregiudizio, un tabù il tuo, no? Mi sembra un po' un tabù, però tu puoi avere tutti i tabù del mondo, sei libera di avere tutti i tabù, bisogna essere liberi anche in questo, liberi di avere i tabù, io dico sempre libertà, dunque se uno ha questo tabù, non voglio perché in fin dei conti non mi piace, la sensazione strana, ma ci sono tanti modi per avvicinarsi a questa cosa qua, cioè te lo posso dire, se vuoi facciamo anche una trasmissione apposita, come avvicinarsi a questa pratica, però forse no, Parenzo non vuole, dunque non lo farò. Volentieri, non lo so, se Parenzo non vuole, per cui non lo posso fare, non è che posso fare tutto contro quello che dice Parenzo. Quello ci sono anche i manuali, no? Puoi anche consultarti con un medico, come avvicinarsi alla pratica del sesso anale. Però io dico una cosa, scusa Adriana, sorge spontanea la domanda di Parenzo, perché questa voglia di raccontarlo, ecco, questa voglia come di raccontarsi alla radio per esibizionismo, perché ti andava di condividere con me questa cosa, o perché il tuo fidanzato ti ha costretto a venire al telefono? No, perché per mio fidanzato sei un dio, quindi lui ha voluto condividere questa cosa con te. Questo è buono, questo è importante, Parenzo, questo è molto importante. Ti ha spiegato, sei soddisfatto di questa risposta? Molto. Sono totalmente ormai sconfortato, guarda, perché di questo sconfortato? Mondo, di questa sessualità tra i ragazzi, tra i giovani. Quanti anni hai, Adriana? 28 anni, no, ancora. No, ma è una brutta sessualità, questa idea di parlare però alla radio di questa roba, violando l'intimità della sua camera da letto. Lo scopi? No, questa qua era la signora Livelli. Livelli. Sì, Nike Livelli, sì. Nike Livelli, quella che cantava la la la la la la. Sì, esattamente. Vabbè, è un mondo incredibile, però ormai veramente senza lei, quell'altra che quello che c'entra, quella fa la showgirl, eccetera. Ragazzi, Adriana, tu sei per il sì o per il no? Sentire facciamo così, butta una tua fish il 4 dicembre. No, aspetta, è interessante questa cosa qua. Butta una tua fish, per me vince il no, cioè fate una scommessa. Se perdi, esatto, se perdi culo, se non, se vinci rimani vergine. Okay. Spettacolare. Ma questa cosa. Scommessa su cosa? No, sai che c'è un referendum il 4 dicembre? No. Sì. Tra che cos'è questo referendum? Ma non ne ho assolutamente la più pallida idea. No, Ma questo è il paese reale, Davide, è il paese reale, non è il paese immaginario di 1.400.000 persone che sentono Zagrebeschi e Renzi. Il paese reale è quello che non sanno. Non sanno, poi gli racconteranno: se vai a votare il 4 dicembre, sì, fai, diciamo, mantieni questo governo, se vai a votare no, cacci Renzi. Questa è la sostanza, l'unica sostanza, quella unica, la vera cosa è quella. Faccio come Donato, mi metto a piangere. Ma tanto non cambierà niente comunque. Brava, se io condivido tutto con te, però fai una scommessa lo stesso: se vince il sì o vince il no, mettetevi d'accordo. Cioè, tu allora, punta, su una, così, tu punta su una cosa, tu punta su una cosa. Secondo te vince il sì o il no? Così, secondo me vince il no. Secondo te vince il no? Sa se di che cosa si parla, ma così, lascia perdere. Se vince, la sciagurata rispose, come direbbe Manzoni. Allora, se vince, cioè, no, proprio... se vince no, niente sesso anale, esatto, per non so. Sì. Se vince il sì, amica mia, ma non sa neanche di che parliamo. Va proprio a caso. Se vince il sì, culo. Vabbè, se vince il sì, culo. Ok, esatto. Sì. Va bene, dai, ripassami, Francesco. Il 4 dicembre ci risentiamo. Passami, Francesco, un secondo. Francesco, va bene. Va bene, questa parla pure, va bene. Eccomi. Ecco, allora abbiamo fatto, una scommessa. È veramente la cosa è questa: se il 4 dicembre, a meno che non la convinci prima, amico mio, io non lo so, questo è un tempo. Se il 4 dicembre vince il no, vince il no, che è in vantaggio nei sondaggi, bisogna dire. Comunque, buono. Vabbè, lei ha scelto casualmente così il no, non sapeva, non sa nemmeno che cos'è il referendum. Tu lo sai cos'è il referendum? sulla Costituzione. Sulla, almeno questo, sai, quella. Sì, ma quale ma Costituzione? Che cazzo cosa? Di scuola quella ha fatto la tua fidanzata? Italiana. La tua fidanzata, italiana. Ma che cosa? Che scuole ha fatto? Cosa legge? È il paese reale, ma te lo chiedo lo stesso, ma cosa sì, legge? Ma cosa legge? Ma no, legge romanzi, cose così, ma. Comunque ha detto che se vince no, sì, se vince no. Quello che conta. Quello che conta che cos'è? Dico no, quello che alla fine conta nel, tra le, cioè proprio tra le persone nel sì, mondo sono sì, queste cose qua. Sì, no, ma è questo, questo vabbè, con me sfondi una porta aperta. Però scusami, a proposito di sfondare, però Francesco, il punto è questo: se vince il no, ha detto purtroppo per te devi aspettare ancora un po', niente culo. Se vince il sì, la sera stessa del referendum il 4 dicembre puoi già andare, vai liscio, liscio con l'olio, liscio con l'olio, liscio, liscio, mi è saltato un anello, liscio con l'olio. Ciao Francesco, ciao, sempre ciao, più ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Vabbè, questo è la regia, è la regia, è la regia. Devi accusare la regia, però un'altra non c'entro niente. No, Gianfranco da Brescia, Gianfranco da Brescia che parlano sempre. Sì, buonasera. Sì. Pronto? Buonasera. Dimmi. A lei, buonasera ragazzi. Dimmi, Gianfranco. No, soltanto per una correzione di carattere medico e anatomico. Questo è interessante, sì, Gianfranco. Mi dispiace deludere il signor Parenzo, sì, ma non è corretto giustificare le. Tu che mestiere fai, Gianfranco? Dato io che sono un medico e sono urologo. Un urologo? Beh, io vengo da una famiglia dove c'è un famosissimo urologo che si chiama Enrico, il professor Enrico Cruciani, ormai un po' in disarmo. Sì, no, il suo nome è associato a uno che fa la radio, poveretto, ti credo. Ma perché? Scusa, non ho capito. Perché? Lo stesso mi pregio, ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, perché sono ancora più contento di poter parlare col figlio. Ti è, no, non è figlio, mio zio, comunque ti è. È stato rovinato, una carriera straordinaria che da quando il nipotino, l'adorato nipotino, non è fa vero, questa trasmissione d'approfondimento, un tracollo c'è stato nella medicina di casa, che era un uomo stimatissimo, ha ragione, era stimatissimo, c'è la gente in corsia che lo guarda e dice ma lei è parente di, ah mi spiace, e guarda dall'altra parte, era un uomo stimatissimo, ma non è vero, stimatissimo in tutti i campi della sanità, no, c'era la gente che si toglieva il cappello davanti urologo, vabbè Gianfranco, allora che beh, succede? Io ho avuto il piacere di conoscerlo, posso dire questo parere, lo posso esprimere, bene, benissimo, era specializzato nell'operare al pisello, questo sua grande specializzazione, sì, urologo, purtroppo, per sì, purtroppo sì, purtroppo. Vabbè Gianfranco, allora qual è il punto? Allora, qualcuno faceva le operazioni alla testa, vedi, donato da Varese, vai dimmi. Allora volevo dire che non è giusto giustificare con le opinioni religiose gli interventi chirurgici di qualunque tipo, che cioè tu mi stai dicendo che la circoncisione alla fine è una mutilazione, è una mutilazione. Ma perché l'uomo nasce sano, non c'è assolutamente nulla da tagliare, e viene tagliato solo in condizioni particolari quando ci sono delle problematiche. Bravo. E altrimenti poi dopo, se no altrimenti per ragioni igienico-sanitarie, certo. No, assolutamente, io ho avuto ma assolutamente con il 70% degli no, però riprenderemo, pratica, riprenderemo perché siamo in conclusione. Ma che somaro, quello fa l'urologo, professore somaro, urologo. Ma che professore? Ma scusa, ma perché lo devi insultare? Fa l'urologo, professore. Ma quale urologo? Professore, medico, medico. Sì, il medico della zanzara. Ma che medico? Fa l'urologo, ma guarda che sei incredibile. Ma quale urologo? È l'urologo che chiama Gianfranco, la zanzara, scusami, te. Guarda, riprendiamo domani questa discussione. Sei una vergogna, sei. Ma sei una vergogna. Urologo, ormai è tutto... Tutto degradato ormai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.